attenzione al canale 10. Ciao Massimiliano, Gianni sono. Oh, ciao Gianni, buonasera. Buonasera anche a te. Ok, perché scorreggia il tuo microfono quando apri la portante? Ma quando clicco il pulsante dici? Sì, fa. Magari c'è il pititi sporco, Massimiliano. Magari è sporco lì il commutatore. Ah, ok, va bene. Ascolta, cambiate il capo, quindi dovrebbe andare meglio. Dammi un responso. Santiago 9, Radio 5. Ok, grazie, bene meda. Ci siamo visti con Claudio in verticale stamattina e mi ha dato il capo e l'ho piazzato subito. Ah, positivo, ti è bastato, sì. Sì, diciamo la verità che buccia e tutto, ce n'è qualche metro in più, però l'ho lasciato intero in previsione di mettere quando sarà, in previsione di cambiare l'antenna. Ah, ok, no, va bene, comunque sto scendo bene. Meglio così. Va bene. E tu, tutto a posto? Ehi, tutto a posto. Beh, diciamo che mi devo organizzare, mi devo fare un po' di spezzoni nuovi, però la verità non ha giocato. Caffetterie varie, cavi, cavetti, roba d'antenna, no? Sì, devo fare 3 o 4 spezzoni e me ne voglio rifare nuovi, però non ne ho voglia. Capisco. Adesso mi sono messo una cassettina esterna, giusto per fare la comparazione tra quella che c'era sotto e una cassa esterna, e devo dire che con la cassa esterna si sente un po' meglio. Beh, la cosa è diversa con la cassa esterna. Rimaneva troppo scatolato sotto, quindi rimaneva un po' cupo. Capo Arrogero, positivo, è tutto a posto. Ma c'era Tino che stava ancora facendo test? Non lo so, io ho acceso 2 minuti. Sentivo la portante con un eco, con un innesco. Non lo so se lui, non te lo so dire. K. Sì, ho per forza a farli perché mi dà 1 e 2 di stazionari e qui io non ne avevo proprio niente, capito? Quindi c'è qualche spezzone che sta lavorando male, perché io non ne ho mai avuto stazionaria e adesso ce li ho 2, là, ma sono abbastanza abbordabili. Potrei anche lasciare tutto così, però l'ago delle stazionarie non si deve muovere. Massimiliano? Oh? Ciao. Bene va senza ecco microfono normale. Che sono la bomba. vabbè, mi chiedo al massimo e poi quando uso il coso l'ecco lo metto a mezzogiorno. Perché a mezzogiorno? Perché un pochino lo abbassavo io. Ma che cosa parli, Michigay o ecco? No, il Michigay dove c'è scritto MIC. Questo che ho, questo qua è il MIC, vedi, lo abbasso, no? Ora, vedi. Ora c'è sotto la massa manetta. Portalo appena meno della mezza, cioè lo porta al massimo oppure lo chiudo un pelino. C'è anche Gianni il profeta. Sì, già l'ho già salutato. E poi c'è una potenza praticamente in watt per l'amplificatorino, li ho dovuti mettere a 5 watt, sennò mi va in distorsione. Non avevo compreso anche le Ducati, io li ho messi a 2 watt e andavano bene, 2 watt ci avevano intorno a 18-20 modulati, a voglia andava bene così. Sto dicendo con l'amplificatore, ho messo a 5 watt, va bene lo stesso, non c'è problema. Quando sto arrivando? 9.30, sì. Ah, ok. Allora, così è la massima potenza, capisci a me, e così è la potenza minima. Va bene, sia in una maniera che nell'altra. No, ho detto, ma è sceso, il segnale è sceso, adesso non è più 9.30. No, adesso c'è 9.10. Ah, ecco, va bene. Ma è in sesta o in quinta? No, è in quinta marcia, quinta, sesta, no, non lo metto mai io, neanche in quello di Stefano, niente. Fissa di sedi, metti in sesta, vedere. Così è in sesta. Ora, non cambia niente, Massimiliano, perché devi sforzarti. Mettere in quinta. Ma io l'avrei abbassato comunque, 5 volte sono troppi, su questa radio meglio così, già lo sai, no? Bisogna lasciarli 2 watt e mezzo, 3 massimo. Perché circa? Quello se l'ho usato sempre io, anche 8 watt le posso dare all'amplificatore. Però per avere la radio bella lineare come la mia tuttina è meglio ottenerla 5, che poi non sono neanche 5, to. Sono 4. E non è che posso stare sempre lineare attaccato 10 con 2 watt, almeno 5 watt, no? No, te lo dico, lo sai perché? Perché mettendola a 5 watt c'ha intorno ai 20 e 22 modulati con 5 watt. Con 2 watt e mezzo ne hai 18-20 modulati. Cosa ti cambia? Da 22 a 20 cosa ti cambia? Nulla. Ok, abbasso. Ho 3 watt modulati, sono adesso. Quanti watt è bello, devi attaccarlo. Devi staccarlo il lineare, mettere il watt della radio prima e poi attacchi il lineare. Sì, ho già fatto il bro io, adesso io stacco. Ecco qua. Mi baso sulla potenza del lineare, no? Allora, scala. Eccolo qua, sbagliato mi gioco. 4 watt, 3 watt e mezzo, 4 watt. Ecco, ma abbassalo ancora, mettilo a meno di 3. 3 watt, come che sto meno di 3, che esco male io, meno di 3, 3 watt va bene. Quanto è ogni picco di modulazione in più che c'ha? Ma è così, è definimiva. Vabbè, è il picco di modulazione, andiamo bene. Ma intanto questo rimane così, adesso spento, ma è, l'ho solo sistemato, nel senso preparatomi e basta. E boh, e poi niente. A me fa vedere un microfono vicino, mi piace. Solo da combattimento, non solo l'altro. Eia, eia, avanti già. Eia, sembra che abbia un distorsore di chitarra attaccato al microfono, ragazzi. La voce sua è un bel grosso, capito? È per quello che... che fa lo stupido. Già lo so, l'ho sentito in verticale, quindi... si sente che è abbastanza presente già di natura, quindi... ma dico, sembra che abbia il pedale e il distorsore della chitarra, amico, quando io... Andi chi c'entra la distorsione? È la distorsione. No, ho detto che stavo dicendo a Massi che con il baracchino la voce amplificata risulta... dà la sensazione come schiacciare il distorsore, il pedale e il distorsore della chitarra elettrica, amico. Così è la mia voce, avviso, io sono vecchietto e la voce è grossa. Siamo vintage, non siamo vecchietti. Ehi, siamo vintage, arrivi a 60 oramai. Sei già in fase di discesa. E allora tutto è sistemato, Massimiliano. Ok, guarda un attimino che ho messo, che ho sistemato la ventola, guarda se si sente. Prova. Proprio impercepibile, già va bene, la sarà così. Vabbè, devo aumentare un po' qua, è così, ecco. Per parlare io devo aumentarlo così, guarda, sicuramente così si sente. Si sente molto meno, va bene. Le ventole si devono sentire, è questa cosa che uno deve intendere una ventola. Io perché sono molto molto distanti gli alimentatori, se no si sente anche la mia se tengo schiacciata la portante. Si intende la musica. Gianni, tu come mi ascolti? Ma io ventola non ne sento qua. Ah? Che io ventole adesso, ventole di raffreddamento non ne sento qua, va tutto bene. Ah, mi senti? Eia. Vabbè, ma non sta uscendo Gianni, Ma non sta uscendo Gianni, la moglie che scende Gianni, ti ha anche risposto che lui ventole di raffreddamento non ne sente. Prova già. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ho detto che ventole io non ne sento. Io non lo sento, Non sentito, 9 e 10 qua, 9 e 5. Non lo sento qua, ho attaccato il serpente, non lo sento. E a me mi senti? Certo che ti sento a te, a lui non lo ascolto. Non ho capito perché, vedo il segnale ma la voce non l'ascolto, boh. Cosa, ci avrei qualcosa che hai toccato lì? Non lo so io, boh. Arriva sempre, come stava arrivando poco fa, non ha cambiato niente. Massi, non c'ho niente da toccare. Non ho niente da toccare io, quindi boh. Vaffanculo a me, non sai perché non ascoltavo qua. Perché ieri avevamo fatto le prove in FM, cazzo, ne avevo bucato lo squelch. Vai già. 1, 2, 3, 1, 2, 3, adesso arrivo? Sì, no, arrivavi anche prima, c'era il segnale, però il casino, sai cos'è? Ieri abbiamo fatto delle prove in FM, quindi ho tolto lo squelch, capito? E mi sono dimenticato di rimetterlo. Sì, a posto, ascolto perfettamente bene, tu a me bene mi ascolti con questa radio. Perfetto, perfetto. Ok, le vento le senti tu? Negativo, va tutto bene. Ok, dai, va bene allora. Ho spostato l'alimentatore a una metrata, capito? Ieri ce l'avevo proprio vicino vicino, poi l'ho anche tutto pulito, mi si vuole usare l'immondezza. Gli ho spruzzato lo spray per contatti, gli ho messo il CRC alla ventola, ma così intendi, va? Sì, ce l'ho visto la foto. Aspetta, anche l'87 non è lo stesso problema del 360, lo Smith, ma quasi. Già alcuni di due pareti o quattro rendaretti. Tu mi hai detto che era tutto a posto, io, ti ho giudito, e vabbè, stabile il culo. Invece quello là l'ha sistemato, già tutto a posto, già in vendita. Sì, vabbè, quello perché io non mi sono accorto che era quello quel problema, se no non avrà bisogno manco di spedirlo, capito? Perché non è la prima volta, è facile cambiare il maschio e femmina del connettore del coso, perché magari quello lì è pieno di roba, c'è poco posto, quindi vabbè, meglio così. Va bene, va bene. Ma io già lo sai che ho fatto questa operazione, no? Sì, sì, infatti c'era, se si teneva si cambiava, no? Ma va bene, ok, è una bella radio anche quella. Vabbè, comunque, 87 già va bene lo stesso. Avanti Gianni, riprendi. Sì, sì, quindi diciamo che sono ritornato ai miei al mio Santiago 95. Ok, bene Meda, sono contento. Adesso ho trovato un vecchio attacco dell'antenna della macchina, poi una volta che la staccherò ci rimetterò l'attacco nuovo, l'attacco che va sotto col dado a brugola. Col dado a brugola, ah sì sì, ho capito. No, si è tornata la maglietta, risette, sì, 95. Vabbè, si fa uno spezzone da 75 ohm. Te l'ha spiegato Giulio, perdi tutta l'impedenza, no, non va bene. Ho detto Massimiliano, tu finito di fare i lavori lì, cos'è, sta vicino alla sedia, bene va? Anche adesso con Busato, non so che vive, sì, va benissimo, qua. Perfetto, perfetto, appoggio la mano sul microfono, tranquillo, va. Apro gli sportelli, pigio, butto, insomma, confusione. No, già lo sai che io qua stazionare non ne ho mai avuto, adesso ne ho a 1 e 2, però sto pensando di domani, perché poi adesso stasera è 6:30 per andare a danza, quindi a usare, ma domani mi metto da presto, ne stacco tutti questi spezzoni e me li faccio tutti i PL nuovi. Andiamo a scegliere PL, sono importanti. A proposito Gianni, ma tu mai ce l'hai PL nuovo? KK, ho piazzato quello che mi hai dato qua. Sì, sì, va bene, va bene. Perché oramai con gli adattatori così non è che ce ne sono i PL, sono tutti quelli cavo grosso. E quindi ci vuole l'adattatore. Va bene, non si vedia. Non riesco a capire perché queste stazionette sono salite. Se sono gli spezzoni o è come magari girato il cavo, tirato il cavo, buh. Vabbè, 1 e 2, mica. 1 e 2 non è che siano chissà queste grandi stazionarie, però io che glielo sa che con quei vatti là era manco l'ago si spostava, quindi sì, sicuramente, adesso vediamo. Ma già le faccio scendere domani, non ti preoccupare, per quello non è un problema. No, una domanda a Gianni, che antenna stai usando veicolare? Guarda, non vorrei dire cazzate, ma dovrebbe essere una vecchia Sirio, se non sbaglio. Una vecchia Sirio in, credo che sia, non so se è materiale plastico o vetroresina, sarà alta 1,75 in 80. E cos'è la PLC 800? Adesso non vorrei dirti bugie, non so cosa dirti, cioè so che dovrebbe essere un Assirio, però il modello non sono sicuro quale sia, Massimiliano. Ah no, l'800 non può essere, la 1000 non può essere perché quello lì è Sigma, non è Sirio, capito? Sì, va bene, e anzi, diciamo che io ti ascolto abbastanza bene perché molto probabilmente c'è qualche varco aperto tra di noi, io ti ascolto Santiago 9, vabbè su questa radio sei 8, però questo è un pochettino, diciamo, un po' così, dai, diciamo, no, sul Senov, sì, che è perfetto, quello lì è Senov. Sì, io giù verso il mare, dalla parte del mare sono tutto aperto, vabbè, l'unico ostacolo è, il più vicino è Monte Oro, però Porto Torres, la Sinara, insomma, tutta quella parte lì è tutta a vista, da casa vedo tutto, quindi è tutto libero. Ok, ok, va bene, avanti qua. Infatti c'è un ottimo segnale qua, te l'ho detto, se ti metti un'antenna come Cristiani qua arrivi molto forte, arrivi molto bene, molto bene. E vabbè, comunque, è migliorato, prima eri di Santiago 7, adesso sei nuovamente 9.5, con 40 anni di macchina, quindi quando metti l'antenna sarai ottimale col segnale. Mattino non c'è, Tino, Mattino c'era con te già. Oh, ho sentito un paio di portanti con l'Eco e con un innesco, pensavo che fosse Franco Isosso che stava provando roba, ma poi no, ma non mi ha risposto nessuno. Poi c'era Massimiliano, no, io le prove le ho fatte sul canale 3, già mi ha sentito, col baracchino, e poi niente, poi ho abbassato il volume, sono tornato, ho sollevato il volume e ho sentito a voi. No, io dopo che ho chiuso con te ho spostato il baracchino, ho riacceso, ho sentito Franco che stava provando una camera eco, microfono, e mi ha chiesto di dargli un paio di riferimenti. Ma Franco Ruggio 5? Eia, stava provando forse un microfono, mi ha chiesto di dargli dei riferimenti. E lui c'era il M300 che avevo dato io qualche anno fa, boh, non me ne ricordo. Sicuramente stava adattando quello, il camarecco non so se ne ha, vabbè, comunque riesce bene con le metri eccetera, Franco. Ui. Ascolta, io dove hai fatto, ma perché lì in quella parete non ce n'era presa Massimiliano? Si vede, dice, fascia della Gadria. Un vocale ti stavo mandando, claro, capito, ho abbassato il volume per quello. Ah, ti ho detto se lì presa in quella parete non ce n'era, l'hai fatta volante. E cosa? La presa. È tutto fatto, Corriere. Cazzate imbecilli. Io che cazzo andiamo per tirare le bambole? Allora, c'ho la porta vicino, no? Già lo sai dov'è. Ho tolto i coprifili dalla porta, ho passato il cavo all'interno del coprifilo, mi sono fatto arrivare direttamente la ciambatta dentro il mobile. Capito? Adesso la ciambatta dentro il mobile. È a posto, la corrente è tutto, nascosto già il filo, non si vede nulla. Ciabatta buona, spero. Sì, ciabatta, come quella che comprate dai cinesi, uguale alla vostra. Mi allontano 2 minuti, ragazzi, scusate un attimo. Sì, no, io ho visto che va giù, è attaccata a parete, dietro la radio, che poi non serve a niente per avere le prese, capito? Perché poi stacco direttamente da sotto. Però della Ticino, no? E dei cinesi, chi sa dei cinesi, ma si è incendiata, hai capito? Proprio con quella ciabatta io del cazzo ci ho rimesso l'effetto in 1000, cazzo del ciudad è entrata la corrente in Romattesi. E vabbè, guarda il messaggio, guarda le foto, cinese o non cinese, anche se l'hai comprata a Ticino, se deve entrare a fumare dentro la Romattesi, non ti preoccupare. Va bene, dai, tutto Roger, quindi la ventola ha migliorato, così mi stai dicendo? Sì, non sento niente, io non sento niente. Ok, dai, va bene allora, là. Bella mossa. Io ho tutti i fantasmi appiccati al muro. Questa era quella maschera che c'avevo lì a fianco. C'erano già da prima. Questa maschera c'era già da prima. Io la sono spostata e all'interno ci ho fatto passare il cavo. Ah, ecco, sì, la vedo. Quindi tu vedi i fantasmi appiccati. C'è anche la base però. Ecco, un mobile con la base, vedi. Cosa c'ho? È un mobile con la base, fa anche la base. Beh certo, no. È chiaro, devo fare qualche lavoretto, mi metto sopra, no? Capito? Però stamattina è venuta questa idea, gente, ma gira per coprire il cavo, ragazzi, ci metto questa maschera, al posto della canaletta, e si vede solo il pezzettino, hai visto, quei 5 centimetri che c'è dalla base al mento. maschera, diciamo così, va? Sì, va bene, va bene. Mamma mia, quanto illumina quello strumento, cazzo, ma non si può regolare. Vabbè, posso anche spenderlo volendo, non è che... Sì, va bene. E la sedia più o meno del colore del mobile, va? Sì, vabbè, dai, il mobile è chiaro, rover è chiaro, dite miele, ma non mi interessa, non so. Cioè, claro, maggio di Busami, non è che... maggio di varie frisce, proprio. Ma va bene, perché vede, estate, mi piace il condizionatore, ce l'ho qui sotto. Non sono in mezzo alle palle. Capito. Va bene qua, Claudio, non voglio sentire nessuno, mi chiudo la porta e va bene. Quando non lascio più gara, si apre le sportelli, si apre tutte e non si vede nulla. Aspetta, sto ascoltando. Ah, ecco qua, il parlascolta non si può inserire con questo microfono. Cos'è che c'ha il parlascolta? No, col microfono amplificato, caso, l'accendo non si può fare. Assolutamente no, assolutamente no, è la stessa cosa con l'87, se no non avrei attaccato l'MB+5, ma mi innesca. Devo tenere basso basso e esce meglio con un microfono normale. Aspetta, ascolto. Vabbè, così è. Così è, ste. Va bene allora, dai, ok, qua. Eia. Va bene che va bene. Non problem. Va bene. Speriamo che non piova, cazzo. L'acqua l'ha messa anche per domani mattina, là. L'acqua l'ha messa anche per domani. Basta, bravo, che seva. Dice che arriva tutta la settimana, vabbè, domani è sabato, domenica mi batto, anche la prossima settimana dice che arriva una passata di caldo, vediamo. Vabbè, c'è una passata di caldo, noi claro, attendiamo l'aria condizionata. Ascolta, se io metto il microfono così cosa cambia? Guarda, vedi, un altro trifo? Sì. Un bel forte, va bene, per me va sempre bene. Sente più rumore così, eh? Beh, si sente, la vento adesso si sente. Meno dell'altra volta, ma si sente. Ah, va bene, allora se in caso io lo lascio così, dai, ok? Va bene anche così, Massimiliano. Attirmi un po' i rumori anche di sottofondo e va bene lo stesso. Come prima era più forte, ma... più amplificata, ma va bene lo stesso. Sì, avanti? Fa passaggio? Ma per me va stai andando bene. Ma andi, è dentro una grutta. Si sei dentro una grutta. Ehi, Mattagiuto, si sei dentro una grutta. Santiago 3 mi stai arrivando. Ah, perché no, già ti sento lo stesso, non c'è problema. Ah, Savetta. Ehi, vabbè. Prova a cambiare antenna, fra, passi sia al di polo che ti faccia un po' di rientro della radiofrequenza. Forse sei troppo Mickey Gain di radio, c'hai. Eccomi. Tu abbassa leggermente il Mickey Gain e aumenta il microfono. No, poi l'antenna aumenta di cristiani, o fra. Io lo sento adesso. Infatti, così mi arrivi bene e ti do un buon risultato. Quindi ti ascolto basso. Cazzo, Santiago sì. Santiago 3, no. Infatti, avanti Gianni. Io, ma chi è Franco? Perché mi arriva Santiago 2 qua, appena sopra il QRM. Ma sta usando un altro tipo di antenna, là. Adesso sta mettendo l'antenna seria, là, diciamo così. KK. Va bene, che va bene. E io quando ti arrivo lì a Sassari, già. Qua una bomba, come sempre, Massimiliano. Ok, va, andiamo. Ma ti arrivo a 9, sì? Sì, sei 9 oscillante tra, in base sempre al mio strumentino, tra i 9 e 10 e 9 e 20. 9 e 10 e 9 e 20, addirittura? Vabbè, va, ma già è così, eh. E così? Ok, com'è adesso? Vai, fra. Cappa, dai, vieni a vedere. Si sente il rumore adesso? Io non lo sento. Neanche io. Niente, ce l'ho al massimo. Ce l'ho. Vedi, invece così. Dove cavolo è? Ecco. Così. Dove cavolo è? Adesso ce l'ho al massimo. Ah, no, eccolo qua. Questo qua. Così invece si sente, vero? Sì. Se lo metti da lì si sente. Però renditi conto, fra, che se lo tieni come prima, la radio è molto forte lo stesso, Sì, sarebbe così a mezzogiorno, sarebbe. Aumentalo un altro pelino, portalo fino al limite, no? Che capo? Ok, adesso ho aumentato l'altro pedino, vieni a vedere. Ancora sei buono, aumenta fino quasi al limite. Ok, ancora un altro po', vieni a vedere. Ancora, vai. Ancora, vai, vai, vedi così. No, così ce l'hai, diminuisci poco a poco. Ok, così com'è? Diminuisci l'altro pedino. Ok, diminuito. Ecco qua, sempre col microfono al massimo solo però, Così per me è buona, no. Ottima di... E comunque il segnale che ti ha dato Gianni è uguale qua sul 440, Sì, 915 con picchi a 918, esatti. Sì, stamattina l'ho aumentato anche di potenza perché era tutto basso, era questo qua. Questo è il Conne che c'è nel 3600. È buono, dai, va bene, Fra, io ti ascolto bene. Io ti ascolto bene, capito? Se c'hai il microfono al massimo, così guardati questa regolazione, perché solamente vai a innescare. No, era solo per sapere dove era il problema, capito? Dell'innesco. Perché era troppo, io mi ascoltavo qua, era troppo. L'ho abbassato però, forse perché due radio vicini non riesci a regolarla. No, no, questo passaggio va bene, dai. Gianni, tu adesso lo ascolti a Franco. Sì, perfetto, 995 qua. Va bene. Grazie ragazzi, che devo uscire. Stavo finendo questo, niente. L'Eco Master che stavo collegando perché c'era una moto senza usare, quello con l'Eco non era Claudio, poco fa ti stavo ascoltando però non ti potevo rispondere, non ero con il coso, con l'M300, ero con questo qua, con l'Eco Master. Sì, la cambio, va bene che va bene, dai, anch'io sono con l'Eco Master Plus, mi sa scoppi, cambio. Prendi i baffi, devi abbassare un altro pelo però, adesso sei al limite ancora dell'innesco, abbassa un altro pelino e Burueto va a leccare, che hai visto? Capa, dai, l'ho abbassato un altro po'. Ok, dai, va bene a mezzogiorno, va bene, dai, intanto sono arrivato lì. Ok, andare, vai qua. Ehi, la parola ce l'ho. Va bene, fra, ottimo per la truppa, non c'è problema. Beh, io ce l'ho, lascio stare sempre attaccato e per quando con Massimiliano andiamo al canale 45 a fare un po' di bordello. Va bene, dai. Ok, se stai chiudendo ci sentiamo magari dopo. Avanti, Gianni, cambio. Sogna brutto. Oi, ragazzi. Va bene, dai, i giocattoli bisogna farli andare. Avanti, Massimiliano. Sì, brutto. Questo va bene, dai. Appena chiuso il Mike Gigio, per fare un po' di chiasso nei canali alti mi ci servono queste radio. Ok, dai, ciao Massimiliano, ci sentiamo, mi sto uscendo. Ciao anche a Claudio e a Gianni. Prossimine, riprendi Massimiliano. Ok, dai, ciao Fra, ci sentiamo, dai, alle prossime. Ciao. Ciao Franco, ci sentiamo fra te. Bene, sta girando Massimiliano. Vuoi dirtelo? Guarda, abbassale un pelino lì, con un pelo. Non me lo ricordo. Non poi si può abbassare. E allora, guarda che è il terzo pomello, piccolino. Ah, il terzo piccolino, questo. Quello, sì, questo qua. Così a mezzogiorno, brava. completamente diverso dal Kappa, quindi va bene così. No, questa è una radio, adesso volevo farla sentire a Franco, ma Franco l'aveva già sentito altre volte, a Massimiliano, per vedere come stava andando. Queste a noi ci servono per fare un po' di bordello nel canale 45 quando arriva la propagazione. Sono io quando uso questo, faccio così e tu non senti più niente, va bene lo stesso. KK, va benissimo, ok. Sì, sì, già spara bene, dai. Ehi, no, quello di questa radio che c'è un interruttore unico dove c'è scritto ecco, quando ti serve lo tiri su, altrimenti lo abbassi, capito? Tutto qua. Faccia, a me bene mi ascolti così, vedi un po', cambio. Sì, più o meno siete molto simili, come suono tutti e due adesso. Positivo, là, il segnale è cambiato così. Aspetta, mi metto gli occhiali. Ah, punto di chi sicuro mi cittadini, calma. Guarda qua, c'è più o meno il solito, sei oscillante tra i 9.10 e 9.20 abbondante. Ah, positivo, allora già va bene, là, già sta funzionando tutto. Cambio. Non so io se mi ci sia normale sta radio, ma si dà, che non c'ha l'eco, cioè che non c'ha il bip. Come non c'ha il bip? Non ha bip, a chi bip tu intendi? E mettilo, no, guarda che c'è il pomello, mettilo. Allora. Guarda il tastino dove c'è scritto bip, inseriscilo. Ah, questo qua. Bulla. E allora, non intendo bip, sì. Adesso sì che c'è il bip, eh. Adesso non sembra originale senza BP. C'è tutto, non ti preoccupare, tutta completa, gap. Va bene. Mamma mia, come sto. Cazzo, due mani guardi in mano sul microfono, che la mazza se la fare, non piatto, non avete il microfono. Cos'è? Mazza te ne mano sul microfono, e due mani. Hai detto un microfono più piatto, non ve la vinci, ma non ha mai, Isa. Non ce l'hai tu un CTS? No, c'ho quello del 48 secondo me, ma penso di no, le connessioni sono diverse. No, sono uguali, provalo a vedere. Aspetta, lo provo, va. Dipendi già. Membri a Kenny o qualche cosa, mi stai ipnotizzando, ragazzi. E a me ogni tanto già è bello. E adesso che poi ho messo l'altoparlante piccolino esterno, lo sento ancora meglio, quindi membri a Kenny. E quando cambierai il radio ti imbraglieggi ancora di più. E allora lascio tutto così. No, dai, piano piano già, diventi una radio un po' più serietta e dove c'è l'FM, le bande, i canali, là, e puoi ascoltare più cose. Prova. Non stai uscendo. Svita appena la rondellina delle cose. Non si sente niente, Cra, solo il bip e basta. Prova a inserire il microfono della midra senza avvitarli la rondellina. Ulla, ulla. Dov'è? Ulla, ulla, ulla. Come due mani ti lascio il microfono. Ma bella anche con questo, ma è forte anche con questo. Ehi. La voce è quella che... Già va bene, e ci abbassiamo, se no. Ecco qua, vediamo tutto, se no Gianni si incazza. Intanto sembra in banda laterale, qua. Perché ti rimbomba a te, già lo so. Già va bene, lo usiamo così, già va bene. Anche ne avevo altri di microfono, ne ho tutti dati. Non vanno bene. Quello del 48 va bene con l'Herbex, anche capito, però ne avevo di quelli piatti della CTE, ti ricordi quelli che usavamo prima, Massimiliano? questo microfono com'è? Una cagata. Aspetta, questo microfono? Ah, com'è questo microfono? Sei brutto. No, oh, vabbè. La giobetta poi fu sa che cosa, no? Che là? No, non c'è, non c'è, lo devo fare per forza qualche tocco. Ah, ma al ragno? No, no, gli spezzoni. Ora. Al brutto? Al magno, voglio al brutto, aspetta. Ma infatti il magno non mi sta piacendo questo periodo. Ho pigliato il troppo più, vero? Riprendi già. Ehi, ma... Anche Massimiliano sta smanettando con i microfoni adesso. No, vabbè, Massimiliano, di queste che di queste c'ho io ne ha tre o quattro, non ha problemi. Microfoni ne ha, lui ce ne ha un bel di queste robe, andiamo a giù una giura. Guarda a vedere, adesso c'è il suo classico là. E va a recupero. Ehi, va bene. Cappa di prosmetro, già va bene, già va bene. Oh, va bene, che va bene, che va bene, che va bene, dai. Ehi, chi è che ha detto? Oh, ho sentito un... Oh, tu vedi? Ascolta, Cla, così mi ho tolto il Top Gun, com'è? Vabbè, lo stesso. Non so, lasciato attento è più bello la manovrazione. Guarda, te lo faccio in diretta. Allora, così è senza Top Gun e così è col Top Gun inserito. E adesso è inserito che è più bella la manovrazione. Gianni, meglio lo senti. Sì, gli dà più passi quando inserisce l'accrocchio. Si sente... è più piena. E tanto la lasciamo più piena, dai. Fatto l'accrocchio. Non ho sentito che funzionera, quindi l'ha già chiamato a crocchio. Cosa hai detto? Top Gun è una sorta di amplificazione del modulatore, praticamente comprime, va a comprimere sul microprocessore e ti dà la modulazione più compressa, più bella. Vabbè, giocate ci siamo, eh? Ah, è solo tutto. Mi riattacco il mio mitico Midland Alan 440. Beh, puoi mettere anche il più 5 lì, togli tutto. No, non lo voglio, guarda, mi piove far mettere le balle. Questo per fare due chiacchiere si lavora così, capito? In modo che sia già pronto, non devo fare altro che accenderlo e commutare e andare nel 45 a fare chiasso. È una scalda quella Gigio? Adesso vediamo. No, assolutamente non fa benissimo. Va bene, va bene. No, perché Gavino in un paio mi aveva fatto delle modifiche. Ci aveva messo una ventolina agganciata all'interno con relè. Quando schiacciavi la portante partiva la ventola. Quando mollavi la portante si staccava la ventola. È un bel lavoretto quello. E come quelli... come quello che c'è tu, che c'ho io, che non è mio, però già lo sai. Però quelli sono esterni. Quando uno schiacci c'è relè che praticamente dà più tensione alle ventole e quindi accelerano. No, vabbè, aspetta, non confondiamo la lava con la seta, Cla, perché quello lì tu quando lo accendi già le ventole partono, capito? Senza neanche modulare. Quando si modula si accelerano. Però invece su quel linearetto lì e su altri linearetti mi aveva fatto proprio un lavoretto che in poche parole la ventola rimane ferma. Tu in poche parole schiacci la portante della radio e si accende con il liniere acceso, e parte la ventola quando schiacci solo la portante. Quando mulli la portante la ventola si ferma, capito? Ah, ecco, no, quelli che abbiamo noi delle remettere, quelli hanno le ventole che quando tu le accendi sono al minimo, quando poi tu schiacci la portante accelera, e ho capito. No, ma questo vabbè c'ha due rette di dissipazione, vanno bene. Poi è lontano, quindi è abbastanza rieggiato, non è chiuso da nessuna parte, va bene. Ah, è vero, tu c'hai quel lineare RM Italy, c'è ragione. Te l'ho detto, quelli che abbiamo noi. Quelli lì sono un'altra cosa. Quelli sono a fragua. Questi sono linearetti da attaccare a un baracchino, eccetera. Quelli sono lineari da attaccare agli ATF. Beh, no, io non lascio le cose di Zendega. E vabbè, quello che abbiamo noi da rimattori, stavo dicendo. Ah, infatti, questo quello abbiamo noi, boh. E vabbè, noi da rimattori, siamo quelli. Sono allo stato solido, vabbè, quello che ho io è 505. Le due ventole, ma c'è ce n'è bestioni molto belli, anche a 24 voci. Lo conosci tu quello a 24 voci? No, ma già mi stai dicendo. No, a te sto dicendo. Ehi, qualche foto già l'ho vista, è una bella bestiolina. Quello andrebbe bene per te, così finisci di soffrire con tutti questi giocattoli che c'hai. E immagini. Sentivo la gente Io parlando qua nel 10 sentivo la gente che parlava in un altro canale e la sentivo nel 10, la sassa di me. K, già ho capito, e infatti come ho detto poco fa mi sembra un baracchino che cioè è poco selettivo, cioè nel senso che praticamente cattura e sborda un po' da tutte le parti, in quel senso, capito? Sì, prende molti splatter, capito? Non fa, usare così, a casa ci vuole una radio un po' più seria, là. Io per esempio ho un vicino di casa, cioè ne ho due vicini di casa che secondo che radio uso va bene, secondo che altra radio uso devo per forza spegnerla, capito? Perché li sento negli altri canali e loro sono in altri canali, capito? Quindi uso sempre radio un po' più selettive e non li ascolto, ma io anche se spostandomi di un canale non li sento più, capisci cosa ti voglio dire? Sì, perfetto. Sì, stiamo dicendo la stessa cosa, però magari con parole leggermente diverse, comunque sì, già ci siamo capiti. Ho letto un paio di volte su alcuni forum che praticamente è proprio un difetto congenito di quella radio, e quindi niente, chiamiamola caratteristica, dai. Sì, caratteristica solo, ma guarda, a volte le mettevano a questi 48 il filtro, no? All'interno quando li modificava questo filtro anti-splatter, però non fa niente lo stesso. Che io li ho provati di qualche camionista qua a casa, diceva che non prendeva splatter, invece i gometti li bigliano a testa. È un casino, poi vabbè, quando sono modificati li aprono di radio, di spuria, di tutto, quindi raccolgono tutto, capito già? Sì, ma in sostanza è solo il 48 che va così male, a quanto ho capito, oppure è tutta la serie 48, 68, 88, 34, mi date conferma? Guarda, quello secondo mio parere, poi giustamente qualche volta ti dirà in diversa maniera, ma... Allora, in poche parole, quello che prende un pochino meno colpi è il BSX. Ok, perché insomma, perché più o meno ci sono quei due o tre che sono molto simili praticamente, e quindi ho detto, magari è proprio quella serie lì che c'ha quel tipo di problema. Sono anche i 68, i 44, e un po' con tutta quella serie. Ti ripeto, un pochino di meno lo prende il BSX, ma li prende lo stesso, non ti preoccupare, capito? Ok, avanti, qua. Io una serie, però non ho tanto differenza, io avevo la prima serie, no, il primo che avevamo fatto, ti ricordi? Rispetto alla seconda serie che avevamo fatto, quella tutta illuminata, eccetera, prendeva meno colpi, lo sai? Sì, qua, ci sono differenze, dai, ci sono differenze, però i colpi li miglio a te. Alla grande, infatti l'avevo tolto. Sempre dentro l'armadio, sempre nel cellophane, perché da poco l'avevo usato con l'MB5, perché c'era veramente molto molto bene. Però c'era Antonio, che io si spostava nel 23, io stavo qua nel 10, si trovava la giura, proprio non sentivo niente, battimento totale. Allora, gli ho obbligato a registrare da poi dentro l'armadio. Sì, ma è così, guarda, ma poi... Allora, diciamo che, già per farti capire, i 48 sono i migliori, secondo me, ancora in assoluto, che si prestano alle modifiche di doppio modulatore, scheda cold, tutte queste cosettine qua, Ti fanno i 120 canali, ti divulgano l'FM, quindi ti rimane un baracchino che ha l'AM 120 canali, non c'è altro. Però diciamo che sono i migliori in assoluto come modulazione di tutto, secondo me, il mio parere. Ti ho capito Massimiliano, sì, perché d'altronde si prestano parecchio a queste modifiche, perché voglio dire, è una radio abbastanza diffusa, quindi praticamente si è prestata bene a tutte le varie modifiche che poi gli hanno sperimentato e gli hanno fatto sopra, quindi sì, ci sta, va bene così. No, vabbè, era giusto per sentire, giusto così a livello di cronaca un po' come i pregi e i difetti di questo paracchino. Sì, oltretutto ho modificato i litri in base a 450, 500, 400, dipende da chi va a prenderlo, capito? Ma sinceramente per 400, 500 euro mi prendo un S9, un 8001, una radio più, diciamo, più selettiva, ecco, più completa, con bande, con FM, tutte cose. Certo, certo, assolutamente, assolutamente sì, non hai pienamente ragione, ma ti ripeto, era la mia era solo, adesso sto spulciando così su internet, così giusto per svago, niente di più e niente di meno. Sì, sì, sì. Tu sei anche su Facebook? Sì, sì, sì, c'ho la pagina, anche sto pensando di bucarne tutto perché mi sono un po' rotto le palle. Ah, ok, allora scrivi sì, sì, sul coso, scrivi su Facebook Leo Barone Rosso e guarda quelle radio là. Aspetta che dammi un paio di minuti. Come ci si chiama? Leo Barone Rosso. Ah, quello che mi hai mandato la foto della radio. Eia, ma ce ne sono altre che ha capito, foto e balle varie. Guarda, vedi. Sì, già lo so. Quello l'ho visto su YouTube e stava provando dei baffi. Dove aveva che fai da baffi? Castano è andato al dentista. E vai, altro colpo, stavamo parlando stamattina, quello non te l'ho messo in conto. Ah, c'è ragione. Vale bene, Nacho. Va bene. Infatti si è trovato l'ombrello. Speriamo se abbia portato l'ombrello, se no c'è la Genova una pugliata. Sta piovendo, sì. Perché sta piovendo? Via, pioggia. E anche bella, fine, sempre andende. Aspetta che mi chiudo una finestra qua, se sta piovendo anche qui, aspetta. Ok, sono sulla pagina, l'ho trovato. Sì, ho visto, mi sono fermato perché ho visto degli apparati. Dovrebbe essere lui, vero Massimiliano? Ehi, guarda, il primo che c'è anche un video, guarda il primo, quello che lui dice con musica, guarda. Typhoon 2, interno, Pluto, Galaxy, eccetera, elaborato accolto, poi Barone, barabì, barabà, e ci sono un po' di fotografie. Io positivo, quello era il mio, per esempio. K, e adesso, vabbè, c'ho la connessione quella che è, adesso vediamo se me la apre. Sì, sto sfogliando un po' di fotografie, anche se ci mette anni luce ad aprirle. Vabbè, non me la apri, vabbè. Sì, sto piano piano riesco a vederle. Sì, bene meda. AM, FM, USB, RCB, tutto quanto, dai. Quello è modificato, per esempio, con la scheda accolta, però vedi, è tutto, c'ha tutto. Perché tu da lì elimini tutto e lo puoi usare come radio normale. Ma questo è il 87. Eia. E manco provato la radio. Vai, è una cagata, ragazzi, noi crescendo i casini. Ma io come l'ho visto, che l'ho guardato, capito, ho visto subito il problema. Vabbè, però, là, ricordati quello che ho fatto, quindi va bene. Vabbè, penso proprio di sì. Hai dato un baracchino, hai abitato un armadio. Appunto, baghiscio. L'armadio ci sta più roba, puoi prendere qualsiasi cosa, il baracchino che ne fa delle unta. Infatti per quello Giannaggio Maracchini. Oh Gian, scorri più giù, guarda che c'è un affare con tre ventole sopra, guardalo se ti piace. Piano ci sta mettendo un po' a caricare le foto, sono andato sul coso delle fotografie. Allora aspetta, vedo. Sì, adesso c'è un lineare con tre ventoline, sì. Sì, ci sono un po' di fotografie, sì, le ho beccate. Quello, lo sai, un RM Italy, giusto? Vabbè, adesso sto guardando attraverso le miniature, provo a aprirne una, vediamo un po'. Sì, è grigio con le ventole nere. Bello quel lineare, hai visto, l'uovo. K, bello grande, dai. Niente linearetto. Cazzo di nevoie, chiamo linearetto, linearetto dice vai giro, ci sono lineare. E penso che ce ne siano pochi come l'RMIT, non c'è niente da fare. sono veramente dei bellissimi amplificatori allo stato solido che ti consentono di fare di tutto e di più senza avere chi ti va ragione in mezzo alle balle. Ma infatti. Bella bestiolina, sì, bella attrezzo. Hai visto quello lì con già, quello 700-800 watt che tira fuori. Immagino, no, ma già si vede che così, anche a livello estetico, cioè è roba seria, sicuro. Meglio casa costruttrice per gli amplificatori allo stato solido. Stato solido significa non a valvole, a transistor, sono bellissimi, sono veramente molto belli, compatti, fatti veramente bene. Io ne ho uno che non è il mio, è un 505, quello mi sembra sia un 805, quello ce n'è la foto. Io ho un 505, ma è una favola, è un HF 030. Cambia automaticamente, tu puoi andare in qualsiasi banda, lui non ha problemi, è favoloso veramente, solo che è più piccolo di quello. E quello con le marce o quello c'è tu? Sì, sei marce sempre, sì, con i LED, quello lì, così, simile a quella foto lì, solo che è il figlio, capite, più piccolo. No, perché quello lì mi sembra quello che sta guardando anche Gianni, quello c'ha prima, seconda e terza e basta, non le altre. Ah, tre marce solo, no, quello 505 ne ha sei marce. E beh, quello ne ha tre, Massimiliano, perché cazzo quello tira fuori un sacco di potenza, magari hanno bilanciato le potenze, una, due, tre, capito? Quello là, essendo più piccolo, ha bisogno di avere più marce, capito? Se no in salita non cammina. Vado a cambiare l'acqua di olive un attimo. Beh, quello l'ho fatto, in prima 200, in seconda 400 e in terza 600. E manerà di più, Massimiliano, sicuramente di 600. Perché è un 805, capito? Arrivi a quello che ho io, in sesta marcia è intorno ai 350 watt, capito? In AM sto parlando, è 370 automodulati, ma deve avere una radio che spinge, quindi immagino che quello lì sia più di 600. No, bisognerebbe provarlo in una cosa così, in banda laterale, avevo usato lì fuori, No, io l'ho provato però con l'HF, capito? In 40 metri con l'antenna dei 40 l'ho provato e in banda laterale ci arriva a 600, in banda laterale barò. Quell'805 mi sembra che sia 600 in AM e un pochettino di più. Io penso che comunque 800-900 questo in banda li toglie. Sì, ti sto dicendo quello, infatti sicuramente è così, perché li tira fuori questo quasi 600, ho visto a strumento quello che ho io, dai. A raggi incrociati ho visto che fischiando aveva picchi quasi di 600, ma mancava poco in banda laterale, quindi quello lì immagino che 600 watt li tira già fuori abbondanti in AM, in banda laterale saranno intorno agli 850 sicuramente. Sì, una cosa così credo, beato che se l'ha preso. Beato che se l'ha preso. Mi devi fare che si è appigliato, quindi costa, no? Se abbiamo avuto un gavetto, che perché quello là, non ho già mai capito, non me l'ha dato quello grande, KLA mi pare, non so, il 1000, non me l'ha dato, perché non gli ha mandato il gavetto di collegamento, dice che lo deve mandare, capito? Allora appena le manda il cavetto quello lo provo e a voglia lo provo, attacca un 440 avessi un bruco. Comunque non è rientrato quella persona là perché ha messo che è fuori, che sta mangiando, è ancora fuori. Sì, siamo sentiti stamattina perché ho visto quella roba che mi hai mandato tu, capisci, a me, di quel mio collega, no? Il mio collega e mi ha detto appunto che stavamo commentando il fatto del microfono, che il prezzo è troppo alto. No, non ti ho capito, la verità. Quella foto mi hai mandata tu, di quella persona che sta vendendo tutto, c'è un MC60. Ah, sì. Stavamo commentando quello, no? Del fatto che è troppo alto il prezzo, capito? Potrebbe metterlo a 80, lo vedrebbe meglio, subito. Così no, è troppo il prezzo. Stavamo commentando quello, infatti ho chiesto, ma già rientrato? Ho detto no, parto domani sera, mi ha detto, rientro, parto domani sera, dice poi rimango a Urbia perché l'aereo a Terra Olbia e ci vediamo martedì, mi ha detto. Già va bene, là, extra, tanto. Ogni tanto ci vado una, due, due di fuori, andava tutto al lavoro. Rientrato, sì, già. Eccomi. No, boh, te l'ho detto già da poco fa. Quando schiacci la portante, quel pititi fa pro. Sicuramente è sporco. Appena possibile, magari 10 minuti di tempo e lo smonto, magari provo a pulirlo. Ascolta, che aggancio c'ha quel baracchino? A 4? 4 poli, quello classico, con la ghiera che si avvita. Ho capito. Ti avrei voluto prestare un microfono a provare, amplificato palmare però. Ma autoalimentato con la batteria? No, ci vuole la batteria da 9 volt dentro. Ah, K. Sicuramente credo che spinga di più. Magari ti aumenta anche un po' l'orario, capito? Perché no? Si potrebbe provare a sperimentare. Vediamo un po' cosa succede. Brecco! Avanti, Brecco! Buonasera, salutoni circolari a tutti! Ciao Daniele, buonasera, ben entrato! Ciao Daniele, buonasera, ben entrato, hai portato l'acqua! Hai visto, ah? Ho portato l'acqua, va bene, io ho portato la radio dal dottore stasera. Davvero? Sei andato là? Cappa! Te l'ha già fatta davanti a te, no? No, magari, l'ho lasciata ma sono tornato. Quanto ci hai messo andare? Quanto ci ho messo? Meno di un'ora, 50 minuti forse. Andare a tornare, no? No, sono il cacchio sull'elicottero, no. 50 minuti andare, ma si vedeva, sono 70 e passa chilometri. Va bene, comunque. Cosa gli hai detto di farti alla fine? Di togliere le porcherie che hanno fatto dentro. Tutti quelli lì che c'ha, quando voglio le modifiche o le fa andare dirette oppure fa qualche altro sistema per attivarle. E gliel'ho detto di aumentartelo un po' di picchi di modulazione. Cappa, già sa tutto. Buono, guarda, è una persona favolosa quella. Che è quella con pochi spiccioli ti mette a posto la radio, vai tranquillo. Già va bene, quando l'ho vista si è messo le mani nei cappelli che aveva fili contro fili, entra, esci, torna a fare disso, a smonta. Ma io Massimiliano riesco a capire quella radio, cazzo l'ha toccata? Ma a coso? Daniele l'ha toccata? Non lo so come l'ha toccata, io sono altro giocatore. Quella radio funzionava benissimo, non capisco perché ci hanno mai messo le mani dentro. Peccato, io la mia mai aperta, vabbè che la mia era fatta da coso, come si chiama, da mollicone, come si chiama, tortiglione. Lumacone. Lumacone, o tortiglione, e va via la cosa, io questo Lucanuta, ma ha sempre funzionato bene, Daniele, anch'io le passavo la calamita senza appoggiargliela però alla... Io non l'ho mai graffiata, proprio gliela facevo appena appoggiare sopra mi tam, e scattava il relè. E non mi ha mai dato problemi, capito? E l'ho venduta così, ce l'ha già nel dischetto in macchina, non si è mai lamentato, ci ho visti anche da poco. Bocla, se vuoi ti dico. Io come l'ho presa, ripeto, l'ho piazzata, la stavo usando e non l'ho mai aperta. L'ho aperta perché si era bloccata. Anzi, non perché si era bloccata, perché si era bloccato lo smitter. Si è bloccato lo smitter e poi quando l'ho provata mi hanno lasciato che c'era lo smitter bloccato. Poi come ho lasciato a riprovare per farla girare non andava più niente. Capito? E allora l'ho aperta per quel motivo. Ecco, ma svegliato, mi ha mandato un vocale, perché non lo leggi, cazzo? Aspetta un secondo, mi è arrivato adesso. Ai, va bene, le prendi già. Eia. Ciao Daniele, buonasera, ben sentito. Abbiamo messo il cavo nuovo, quindi adesso dovrei arrivarti meglio, così è. Sei... allora, con questa radio sei 9. Bene meda, grazie. Ok, dai. Meglio così, avanti qua. Oh, qua. Lui. Stavo pensando provvisoriamente di prestare la boomerang a Gianni, se la voleva provare, la succedeva. Può anche farla la prova, c'è l'attacco PL, può anche farla, la gira... la boomerang, sai qual è il problema, però, la rottura è balle con questo radialino orientabile, secondo me la mette arriva anche più basso. già esce bene così. A te cosa ti ha detto l'antenna a proposito? Io il cavo gliel'ho consegnato stamattina. E l'antenna cosa ti ha detto a te? In teoria mi ha detto che chiamato stamattina, ma non l'ho chiamato, Cla. Ho detto sicca e non lo chiamo più. Ma no, ordiamo un'altra parte. Ah, io date una mossa, date una mossa, bro. Ho detto dall'altro giorno e mando alla fanculo, perché intanto è così lui. Hai capito? Lui è così. Poi quando arriva fra un paio di mesi, no? Fra 2 o 3 mesi, allora ti chiama, è arrivata l'antenna e tu non le rispondi nemmeno. Ma non è neanche il numero mio. E allora frutti di lì, la tensia. Ho detto, fai quello che ti ha detto Massimiliano, fai quello che ti ha detto Massimiliano. A 70 euro ce l'hai a Sassari quell'antenna, uguale, precisa e identica. E infatti. Dimmi qual era quel sito, Massimiliano, e stamattina stavo girando e c'erano cifre allucinanti. Oh, mi sembra di averla vista su IL Elettronica. IL? Se non mi ricordo male è lì, comunque ce ne sono anche altri, non c'è problema. Capito. Ascolta, lei, cosa ti ha detto quando ho visto la radio? È tirato per forrugiata questa radio. Infatti. Così ha detto. Ha detto, ascolta, fai qualcosa, se no me. Chiudo io che ce la butto dentro il cassonetto, No, no, tranquillo che ce la metti a posto. Tranquillo, non al 1000, ma al 2000%. Te la metti a posto e te la fa uscire bene. Adesso mi ha detto, guarda, forse fra 2 settimane è pronta, però cerco di portarla anche prima, ha detto, vedi tu. Beh. Blackout momentaneo. Blackout momentaneo. Quindi la radio Daniele aveva bisogno di un intervento. Massimilia. Se guarda solo la foto senza dire niente, quello ieri mi ha arrivato. Cappa, aspetta che vado giù a vederlo, aspetta. Ti prendi Gianni? Veia. Quindi stavo dicendo, quindi deduco che quella radio che stavi usando tempo fa non era in condizioni ottimali, cioè quello si è messo le mani in testa, vuol dire che insomma era preoccupante la cosa. No, stavo parlando della storia della radio di Daniele, che l'ha portata dal tipo e si è messo le mani nei capelli. Sì, perché quelle sono radio, una volta che le modifichi e te le fa una persona competente, va bene, non ci devi mettere le mani dentro, capito? Lì sicuramente il proprietario ce l'aveva prima, che noi conosciamo. Magari non le piaceva l'eco, allora ha iniziato a toccare i trimmer che ci sono dentro, a fare, a spostare fili, tire, tricche, e si è successo un casino. Se no, ti ripeto, io guarda, l'avevo comprato da Gigi Vulcano, non mi ha mai creato problemi la mia, mai, assolutamente mai. Perché? Perché non l'ho mai toccata, capito? Ma se ti buona particià, allora non va bene. Guarda quante ne ha Massimiliano e quelle varie modificate, pure non le tocca, o se le tocca sa dove andare a toccarle, perché lui le conosce molto meglio di me. Basta, ma uno che non le conosce non deve toccare quelle radio. Certo, certo, d'accordissimo. Evidentemente gli è venuto il prodito alle mani e ha deciso di smanettarci sopra. Vabbè, queste sono purtroppo le conseguenze. Dopo non si riesce a porre rimedio ed è un casino. Esatto, esatto. Ma tu a cambiare i connettori, per esempio, se il microfono non va bene, riesci a invertire le polarità, le connessioni del microfono, sì? Sì, no, già da quel punto di vista lì, Claudio, già insomma, un po' di cose già riesco a farmele a casa, voglio dire. Un po' di conoscenza ce l'ho, quindi certe cose riesco a farmene anche qua, non è un problema. Gianni, oggi! Avanti! Allora, ma la tua radio comunque, se tu innesti un microfono con, per esempio, un altro tipo di microfono, c'ha le connessioni midland, diciamo così, là? Sì, dovrebbe essere... è l'attacco standard, Massimiliano, quella a 4 poli con l'incapo, perché è vincolato praticamente con l'incasso, i 4 poli con l'attacco con la ghiera, è il classico, il standard... lo standard, diciamo, dai. Sì, vabbè, però ce ne sono tutti quasi così adesso i microfoni, però ci sono quelli che hanno l'attacco, per esempio, cosa ti posso dire, Galaxy è diverso dal Midland, anche se c'ha 4 poli, 4 punte, la ghiera, capito? Hanno diverse connessioni, va. Comunque, là, io quel microfono te lo regalo io, è amplificato, ok? E te lo attacchi lì. Mi sembra che ci abbia anche il beep nel pulsantino. E mi pare che già abbia anche l'eco, mi pare, non lo so sicuro però. Sì, sì, sì, è un è della ZG quel microfono, quello arancione Tecce. È grigio e giallo, l'M93. Sì, sì, sì, c'ha l'eco, c'ha il VIP, c'ha tutto. Puoi eliminare qualsiasi cosa, però c'è una bella preamplificazione quel microfono, va bene. Va bene, sì, sì. No, passi a me, le metto la batteria e glielo porto a Gianni. Claudio, poi già ti regalo qualcosa io, dai. Ehi, un pacco di navette, regalami. Ciao, buonasera a tutti. Ripresente, ancora non ho capito chi c'è per questa. Ciao, Fortuna, siamo io, Massimiliano Bulldozer e Gianni Rubroffetta, poi c'è Daniele che è andato un attimino a vedere Facebook. Vai, Massimiliano. Ehi, che stavo mandando un vocale a Daniele, cos'è? Fortunato Lacchi è entrato. Ma non lo so se mi ascolta, boh. Ciao Fortunato, buonasera. Sì, Massimiliano, ti ascolto. Circonvallazione qua della grande città di Sierra Sierra. Ah, io allora sei a casa, là, dimmo se sono di casa. Sì, dai, sta arrivando a bomba qua. Ciao Fortunato, buonasera. Cappa, Gianni, confermi? Cappa, cappa, qua arrivi molto bene, molto bene. Piccola stazioncina la mia, sai, così. Ti prendi, Claudio? Sai qual è il problema, già? E c'ha lui la piccola, la stazioncina. C'ha la stazioncina piccola. Però c'ha l'uccello grande e le spalle larghe, tutte peloce. La radio è un po' bassina, Fortuna, comunque il segnale è abbastanza forte. Cappa, dai. Dai, se ne prendete voi, io come al solito sto arrivando qua alla base, dai. Sentiamo, buon fine settimana a tutti. Ciao, Fortuna, mi raccomando, mi dico già che sia a dieta. Ma veramente, perché la dottoressa mi ha detto di perdere 10 kg, perché ho preso 110, mi ha detto, vedo un po', siamo fortunati, così non va bene. Ma la dottoressa sa già che sia su 2 metri, sì. Già lo sa. Infatti mia moglie mi ha detto, ma questa dottoressa va, mi pare un po' caretto, lascia perdere. Non si riesce ad eliminare il mangiare, no, Fortuna, troppo freddo, lasciamo perdere il bere, perché il bere fa anche male, ma il mangiare non ci possiamo afferrare, dai. Però io, perlomeno l'ultima volta che ti ho visto, non sei così, sei sempre ben piazzato, già va bene, lui a farsi un brodo di gigio e la dottoressa. Ma e poi mia moglie mi vuole così, Adesso gli ho detto, ma sì, mi devo preparare per l'estate, per cortesia, non ti toccare niente. Solo una rasatina e basta, Dai, chiudo, dai, sono qua, uia. Ciao! Ciao, Fortuna, un abbraccio grande, saluta da Pio Franco. Fatti sentire ogni tanto, vai Massimi. Positivo, ciao Fortuna, buona serata, buono fine di giornata, ci sentiamo, là. Avanti, Daniele. Daniele è andato a vedere il Facebook. Avanti, già allora, dai. Eia, mentre curiosavo l'altro giorno, mi sembra di aver visto quel microfono di cui mi stavi parlando, Massimiliano. ZG è grigio, praticamente con uno slider, la plastica dello slider giallo, se non sbaglio, confermi? Scusa che mi sono allontanato un secondo, che le donne si stanno preparando, devo accompagnare a danza. E anche io mi cambio, lascio acceso qua ancora, dai, tanto ti avvicento. Ok, niente, dai, già ci vediamo al limite, boh, non so se domani o domenica, o ci vediamo con Claudio, lo passo a Claudio e te lo passa, non è un problema, dai, ok? Cosa vuoi che ti dica, Massimiliano? Più che grazie adesso non mi viene. Cioè, cosa ti devo dire? Ti ringrazio tantissimo. Lo proviamo e vediamo un po' cosa riusciamo a tirare fuori. Vabbè, prima di collegarlo, tanto c'ho lo schema elettrico, sono riuscito a scaricare lo schema elettrico del mio baracchino, quindi quando farò la modifica mi atterrò lo schema elettrico e i collegamenti li faccio giusti. Vabbè, tu ci infili la batteria e nel microfono lo provi. Se vedi che non vale, giri le connessioni, tutto lì, non è che devi fare chissà che cosa. Certo, sì, ma è un lavoro abbastanza semplice, basta rispettare le connessioni non dovrebbero esserci problemi. Ma infatti, dai, ti dà un po' di spinta in più alla radio, capito? Poi c'ha, nel PTT c'è la grande, no? Nel PTT c'è la grande, mi sembra che abbia un pulsantino che tu lo sposti su on e dovrebbe avere il beep. Poi c'ha un cursore anteriore, dove ci metti la bocca che parla, un cursore anteriore, e tu quello lì mi sembra che lo apri e ti dia anche un po' di eco, boh, una cosa del genere comunque. Sì, Massimiliano, l'ho visto su internet quel microfono, ho capito di che microfono stai parlando. Sì, l'ho visto su internet, c'ha il pomellino giallo praticamente del cursore, quella è la regolazione dell'eco, credo, se non sbaglio. Sì, sì, è così, è così. Tu scrivi su Google dove vai, ci scrivi microfono amplificato ZG-M93 o 95, vabbè, non me la metto se è 93 o 95, e niente, già ti appare lui, va. Ok, riprendi, claro, rimango qua un attimo che inizio a vestirmi, dai. Va bene, Massi, non c'è problema, siamo qua, dai. Sì, sì, è un microfono che ti dà un po' di spinta, ma provaci pure che vada bene la connessione, o già, perché tu c'hai, è Midland il tuo. Sì, infatti dovrebbe essere, ripeto, anche se è un 4 poli dovrebbe essere praticamente una configurazione standard. Sì, ma è Midland, il tuo è Midland, quindi potrebbe andare bene, se non va bene c'è da invertire due fili, col rosso col nero, nero col rosso. Di solito facciamo sempre così, invertiamo un filo e basta. Bisogna vedere quando lo inserisci, se va importante devi invertire il rosso col nero, se invece non va importante, non esce la modulazione, mi sembra che devi invertire il giallo col bianco, una cosa del genere, capito? Quindi da sopra a sopra, perché lo metti a 4, lo metti così, dai, in alto, e vedi, ci sono anche i numeri, quindi basta rispettare i numeri, non c'è problema, perché fa 1, 2, incrocio, 1, 2, 3, 4, incrocio, capito? Quindi basta rispettare i numeri, come hai detto tu, già. L'ho provato io, va bene quel microfono. Ti dà un po' più di spinta, dai, poi le lasci il bip inserito, sembra che c'hai il baracchino nuovo. Sono su internet adesso, ZG-M93, microfono amplificato, connettore 4 pin tipo Midland, sì, è questo. Sì, sì, tutti quei riferimenti c'hanno. No, volevo fare un interrogativo a Massimiliano, ma se si sta vestendo lasciamo vestire, se non si dimentica esce mutande. Chiappa di Rosmet, va bene, dai, poi glielo dico a vedere cosa c'ha quella là, ancora un po' dove c'ho io, che praticamente è su, voglio capire che cosa c'è, se mancano i finali, voglio chiamare giù chi va. Daniele è proprio zeffanato, Daniele è proprio, vabbè, vuol dire, evidentemente sto facendo qualcosa di importante. Sì, sto vedendo adesso qua su, sto cercando di entrare su eBay e vedere un attimino, ma giusto così a livello aglio e olio, per vedere. Sì, mi sembra di averlo visto anche su eBay, su Amazon l'ho trovato. Adesso voglio vedere su eBay. Sì, bene, Meda, lo sperimentiamo molto volentieri, con grande piacere, così almeno vediamo se magari con un microfono del genere riesce a spingere un po' di più. Beh, certo che sì, capito. Va bene, cosa vuoi dicendo? Sì, dovrebbe essere 93, mi pare, perché c'è anche il 95, mi sembra che quello sia il 93. Sì, qua l'ho aperto, sono su eBay, ZG-M93, microfono preamplificato con volume, ecco. Sì, già quello lì allora, sì, c'era Massimiliano, tanto si è invaso in un bretto. Era qua perché c'avevo una scatola intera di roba sua e lui stava facendo lavori, quindi ha messo tutto lì dentro, nel bobo, fili, filetti, ho visto che c'era anche quel microfono. E adesso vediamo, ti vedi con lui o sono da me, facciamo come abbiamo fatto stamattina, vengo un po' più giù, verso la stazione, beh. Tanto tu visto sei salito lì. Ma tu sei nel palazzo delle poste? Sì, praticamente, sì, sono praticamente alla fine del viale alberato, dai. del palazzo che c'è alla fine del viale Alberato. Ho capito, ho capito. Quindi vabbè, io mi fermo lì dove c'è il piazzale del... come si chiama? Sì, praticamente dove c'è la fermata di Sirio, va? Sì, sì, positivo, positivo. Allora me ne volevi dire? Ho capito, già la prossima volta c'ho più riferimento, ho capito, mi sono fermato lì, non fate venire a piedi. Ho detto, Massimiliano, quella era un 48, che c'ho io, che è il tuo tra l'altro, ma mancano proprio i finali, per il resto non c'è niente, mancano solo i finali. Ecchime! Ci vuole. Quello magari il pomponio lo potrebbe anche mettere, se ce l'ha. Ecchime! Ehi Daniele, quindi mancano solo i finali, ci vogliono i finali, i, come si chiama, 13, ma come si chiama? Non so se manca il finale o anche il prefinale, boh, basta aprirlo qua, sono quattro viti, le togli e lo controlli. Mi sembra che non abbia solo il finale solo, mi sembra che manca. E dopo lo controllo, adesso. Se si può mettere a posto, quantomeno lo facciamo mettere a posto. Gappa gappa. Avanti, Daniele. Ehi, mi sono aspettato che stavo facendo una bacia al dottore ed è tutto a posto. Adesso vediamo il risultato, cosa, il responso, cosa trova e cosa non trova. Boh. Ma poi devi andare a prendertelo, non te lo porta lui, no? No, e poi faccio un'altra passeggiata e poi me lo ritiro, qua. E vabbè, già il fatto che ve l'ho consegnato io a mano è già tanto, senza stare lì a spedirlo con posta e corriere e via dicendo. No, ma anche se va a fare 70 km, già quando apriamo la radio a Posada io, con Stefano, mi ha accompagnato lui perché quella strada la conosce molto bene, lui ci viaggia col pullman, usa, è dopo Olbia, quindi usa una futa 6, ma anche se era a Cagliari io vado e me la prendo la radio, non sto lì a spedire a fare. Faccio una passeggiata, presto la mattina, vado, piglio un caffè, mi ritiro la radio e me ne vado, capito? In Sardegna, cioè, fino a quando siamo qua bisogna fare così, cosa spedisci? Ti muovi in macchina, vai e te lo prendi, oramai con le poste è un casino. Io ho spedito una radio in Sardegna, a Loristano, per la mandolina di non andare, ed è arrivata tutto quel che è tutto schiacciato, ci hanno messo altri pacchi sopra, sono dei cani, sono. Sì, no, sì, quando in Sardegna sì, noi intendevo spedirla nel senso fuori continente, capito? Che sì, quando non funziona, pazienza, non funziona, quello che ne esce, anche se è sbagliato come ragionamento, però dal momento che te la aggiusta, te la sistema, te la ritorna nuova, poi te la approvi e c'è nuovo problemi, ci si girano quanto le scatole, perché insomma stai spendendo soldi e vuoi essere trattato bene. Si conferma, va bene. Ho detto già, tu rosmetro, vattimetro non ne hai, no? Negativo. Infatti, adesso non mi ricordo, forse ne stavo parlando con Franco stamattina, riguardo alla storia di stazionari e cose del genere. No, sono... Te l'ho detto, io sono... Sto iniziando, quindi piano piano. Scusate un secondo che riprendo io, vi saluto, che accompagno le donne a danza. Allora, se ci siete dopo le 8, roba del genere, riaccendo, ci facciamo un'altra chiacchierata, se no ritenetevi tutti salutati, ok? Ciao, buona serata. Ehi, Massimiliano, d'accordo, va bene, dai, ci aggiorniamo, ok? Poi ti mando un altro audio. Vabbè, vai, avanti già. Ehi, salutoni Massi. Ci aggiorniamo, dai. E niente, no, ti stavo dicendo qua, io ti ripeto, cioè il mic, la radio, il cavo e l'antenna, boh, finito, ma credo che per il momento non mi serva altro. Sì, vabbè, uno strumento ci vuole, un dosmetro vattimetro ci vuole per vedere se è tutto a posto, lo metti sopra il baracchino e ci vuole, capito, per tenere tutto sotto controllo. Gli strumenti è meglio sempre tenerli. Io ce l'ho sempre vicino, vabbè, ce l'ho anche 230 e mi fa tutto, però uno strumento esterno a me non serve, però lì ci vuole, non c'è un baracchino così ci vuole. Avanti Daniele. Gara, va bene. Adesso stanotte guarda cosa trovo di offerte, a prezzi offerte. Ah, buon prezzo questo cacchio di antenna, perché in vari siti, cavolo, e vuole anche troppo. Poi bisogna vedere se quello là si è sbagliato col prezzo oppure era il prezzo giusto che mi ha riferito, giusto per avere un'idea. Però se Massimiliano ha detto che quella cifra si trova su internet, che forse l'ho anche visto, spedizione gratuita, va benissimo. Certo si trova, alla grande si trova, ma stai scherzando, alla grande, meno di quanto la prende lui sicuramente. Riprendi già, datemi un secondo che devo rispondere al telefono. Ok. Daniele, sì, ma sicuramente si trova su internet la... Adesso non so che antenna stavi cercando tu, quale antenna nuova volevi comprare, quindi boh, comunque presumo che poi fai un confronto con i prezzi, a voglia che si trova. Sì, è un Energy 5 ottavi, perché poi c'è la mezza onda, come quella che sto usando io adesso, però questa è una Ringo. E ho visto ci sono tanti prezzi, cavolo, anche a 90, più spese, 70, 80, 90, esci di testa, capito? E poi ho visto una simile della LEM, che non mi ricordo, ma è cavolo, la Venom 5 ottavi, che anche quella è abbordabile come antenna. Forse è l'antenna che mi aveva, di cui mi aveva parlato Marco Condor tempo fa, la Energy 5 ottavi della Midland, se non sbaglio. Poi mi ha detto che ci sono anche altre marche che la fanno. Mi ricordo che ero entrato su internet per vedere, così a livello accademico, per vedere i prezzi. Adesso non me li ricordo, ma comunque guarda, non ti voglio dire cazzate, ma dovrebbe averla anche Amazon quell'antenna, quindi, se non sbaglio. Sì, esatto, mi sembra di averla vista anche su Amazon. Adesso vediamo, dai, già vediamo, così questa te la prendi tu, questa che sto usando io, che esce anche abbastanza discretamente, senza problemi. C'ho una e uno di stazionarie, nonostante stia piovendo, e già funge. Bene, sì, dagli un'occhiata anche su Amazon, su eBay, sicuramente io ho trovato qualcosa tempo fa, poi non mi sono più affrettato a cercare, vabbè, ma anche perché non a dirti la verità, in questo momento non me le posso permettere, quindi voglio dire, ci ho giusto guardato così a livello agli olio, quindi comunque so che ci sono. E poi una volta che digiti su Google l'antenna ti escono tutti i risultati, vabbè, lo saprai meglio di me, che ci sono anche svariati negozi di elettronica per radioamatori, CB, roba del genere, e quindi sicuramente la troverai. Gaba, sì, pazienza ci vuole, vedere un po' cosa si riesce a trovare, basta non siano quei negozi da sciacallaggio, come ne ho visto tanti, già si trova tutto per il resto. Guarda, io su eBay nel corso degli anni ho comprato un sacco di roba, soprattutto roba elettronica. Il vantaggio che ti dà eBay anche col privato è che se dovesse succedere qualcosa ci sono tutti gli strumenti per poter risolvere qualsiasi tipo di problema. Una volta io ho avuto un problema, ma ti parlo 10 euro di roba, ma non era per il 10 euro di roba, era giusto per il principio. E poi alla fine tramite eBay la cosa l'ho risolta. Quindi ti consiglio eventualmente di controllare anche lì, perché sicuramente troverai qualcosa. Ci sono molti negozi reali che poi hanno la loro pagina su eBay, e quindi fanno sia vendita al dettaglio fisicamente e poi fanno anche le vendite online. Quindi ti consiglio anche di dare uno sguardo su eBay, sia i venditori italiani che quelli stranieri. Poi se vuoi essere più preciso, basta che controlli il feedback, se i rivenditori hanno feedback 100% positivi non ci sono problemi. Ciao ragazzi, vedi, ne ho trovata una, però questo è il Regno Unito, viene 41,27 più 13 di spedizione, 14 fa arrotondato, eh. Però a questo venditore è assente, ecco, se no ho preso solo senza spedizione che è 35,55 mi sa. Sì, sì, Daniel. Guarda, no, dovresti, sì, cioè in Inghilterra, a seconda di che cosa compri, ci potrebbe succedere che ti mettono un'ulteriore tassa, un'ulteriore tassa doganale. Adesso non so se per tutti gli oggetti o per oggetti che superano un certo valore. Ci potrebbe essere la possibilità che ti inseriscano una tassa doganale. Infatti nella pagina dopo il prezzo e il sistema di spedizione ci dovrebbe essere una voce tassa doganale in base all'importo, capito? Quindi bisogna stare un po' attenti anche lì, perché è probabile, non sempre, però è probabile che ti aggiungano un'ulteriore tassa di importazione, capito? Infatti, io ho preso dei pezzi per il fuoristrada dall'Inghilterra, no, dalla a Punta del Casino era questo pezzo che mi serviva. L'ho pagato proprio una fesseria, roba che in altri siti ne volevano anche 50 euro, io l'ho pagato forse la metà della metà, lo stesso pezzo. Sì, guarda, io mi è capitato tempo fa di prendere un alimentatore con le batterie per la videocamera professionale che ho, e ho preso roba degli Stati Uniti e ho dovuto pagare un'aggiunta di commissioni, roba doganale, insomma. Comunque ho dovuto pagare un surplus. Dovrebbero essere Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Israele e Inghilterra, a seconda dei casi. Poi non mi ricordo se ce ne sono altri. Vabbè, io ho comprato roba da Giappone per i giradischi, ho comprato componenti elettronici un po' da tutte le parti del mondo. Ti ripeto, mi sono trovato sempre bene. Poi, ti ripeto, per qualsiasi disguido c'è sempre la possibilità di risolvere il problema, e sotto questo punto di vista eBay è molto, molto sicuro, quindi ecco perché te lo sto dicendo. Quindi fai la tua ricerca e sicuramente qualcosa la trovi. Infatti sì, c'è pure Amazon questa c'era pure Amazon, 45 euro, spedizione gratuita. Allora vedi che già si trova la roba. Poi vabbè, Amazon già sono abbastanza veloci, quindi dovrebbe essere tutto molto più semplice, dai. Cappa, adesso bisogna vedere com'è il metodo di pagamento di questa cosa. Sarà tipo Postpay, PayPal, roba del genere. Guarda se ci sono nei rivenditori, guarda le recensioni, buttaci un'occhiata per vedere se ne parlano bene, ne parlano male, insomma. Dai uno sguardo anche alle recensioni. Adesso guarda, io sto facendo in diretta. Hai una domanda. Dettagli prodotto, tick track. Vedi, no, questa è diversa, mi sa. Perché adesso c'è su Prime 42 euro. Domanda del cliente. Questo però è stato, ecco qua c'è una recensione di un cliente. Però aspetta, ho letto una recensione che questo non è stato soddisfatto dall'antenna. È sempre meglio controllare le recensioni, perché sai, sia positive che negative, magari o gli è arrivato il pacco mezzo aperto o era schiacciato, insomma, meglio dargli sempre un'occhiata, che è utile. Poi insomma, da lì si capisce dalla serietà o meno di chi ti vede la roba, capito? Chi c'ha un problema sulla vetatura del PL, questo che ce l'ha tenuta 2 giorni e poi se l'ha tolta perché era pessima antenna, sottilissimo, alluminio sottilissimo, radiali praticamente inutili. Ci mettono d'accordo. Ma è della Midland, della 5 ottavi, la Energy della Midland, stai dicendo, sì? No, la Venom 5 ottavi della Della, aspetta, questa che cacchio la fa? La, sì, Sigma Venom 5 ottavi. Ho capito. Perché Marcolino mi, quella volta lì mi stava suggerendo che c'erano delle differenze. E lui mi stava consigliando la Midland, dice che a livello dei materiali era superiore, quindi a livello qualitativo lui mi consigliava di prendere la Midland, perché a quanto ho capito lui ha proprio quel tipo d'antenna, capito? Ha comprato proprio la Midland Energy 5 ottavi. No, anche questo, se tu quella recensione dalla Ringo ti metti le mani nei capelli, eppure la sto usando ed è tranquilla. Sì. prova a buttare uno sguardo magari anche su eBay, che sicuramente già la trovi, e vedere un po' di fare la comparazione sia con la Sigma, con la Midland, e vedere un po' la differenza tra eBay e Amazon. Sì, magari su eBay la troverai magari che costa leggermente di più. Ciao, raga, adesso vediamo, dopo mi appento e se vedo un po' cosa trovo a buon prezzo. Bene, Meda. Claudio, tornato, sì? Sì, aspetta, sto preparando una cosa. Ok. Cavagava e cavagava! Adesso mi la cerco su eBay, cosa dice? Eia, io avvicino un attimino a chiudere la finestra. Eia, fai già! Guarda Daniele, adesso sono entrato su eBay, ne ho beccato una, poi vabbè, Selenia, olio, roba del genere, se non metti il nome specifico dietro dell'altra roba. Antenna, stazione base CP27 Midland Energy 5 ottavi, 75 euro più 8 euro di spese di spedizione. Ehi, la stavo guardando adesso già, che appare l'antenna e poi ci sono una catasta di oli. Ehi, ma è così, te lo sto dicendo, è così. Tu lo dovevi dire, va bene, faccio sapere. Ok, ma già l'altra volta lo dovevi mandare a fanculo. No, non serve a niente stare appresso a quell'uomo, la verità. Infatti già non lo chiamo più, Cla. Pazienza. Guarda, qua adesso ho trovato un rosmetro a 15 euro. Ascolta, già, l'hai attivato WhatsApp? No, purtroppo sono senza, Cla. Sono senza. E perché non me l'hai detto stamani? No, aspetta, ne varia. Vabbè, non... Al limite, se è molto importante mi mandi un sms, ecco. No, ti devo mandare una foto, niente di che, dai. Che ti ho preparato lo strumento. Ok. Per Daniele, guarda, questa è un'antenna CP base Energy, dovrebbe essere mezz'onda, dovrebbe essere mezz'onda. Sì, mezz'onda. Sono 65 più 8 euro di spese di spedizione. No, vai già! Su eBay! Adesso me lo guarda, mi sono perso qua, mi è apparso quest'altra cosa. Adesso la cerco, riprendi, Cla! Guarda, se su eBay o Gianni, digita, così lo vedi, mi dovessi sul coso, su internet, digital il rosmetro ZG modello 700. Aspetta un attimo, attendo la luce. Strumento praticamente rosmetro wattimetro modello 700 della ZG. Ok. Aspetta, allora ZG HP 700. No, sì, io ti ricevo. Ma non senti il QRM, cosiddetto? No, non ce n'è il QRM, ce l'ho al zero io con la stazione base, non ce n'è il QRM, è proprio al zero. Ok, figurati, siamo qua anche per questo. Claudio Sparviero da Sassari, sei Santiago 9, va benissimo, ti ricevo magnificamente bene. Gianni, Eia. Non devi scrivere HP, devi scrivere ZG modello 700, rosmetro wattimetro, modello 700. Chi era Cla? Arrivato, l'ho visto, ZG modello 700, rosmetro wattmetro 2-30 MHz, 120 500 mega, roba professional line. Ok, non c'è scritto 1.5, 30 lì attacchi antenna e trasmettitore, quello è il tuo rosmetro wattmetro, ok? Vabbè, continuo a non capire però, sì, dovrebbe essere questo, perché poi ce ne sono, allora, c'è di modello 700, allora, aspetta che, siccome mi ha dato tre risultati diversi, allora, più o meno sembrano simili, scusami, mentre sto parlando, sto guardando le fotografie, allora, praticamente hanno, c'è uno strumento sulla sinistra, un commutatore sulla destra, grigio con l'interno nero, e poi c'è, sotto ci sono due LED, uno rosso e uno verde, con la scritta low e high. Confermi? Sì, esatto, ad aghi incrociati quello, ad aghi incrociati. È abbastanza professionale, forse come strumenti dettagliisce difesa bene. Sì. Praticamente quello verde che si accende quando parli in 27, quello rosso si accende quando vai in bande, diciamo HF, UHF, UHF crudi, ok, quindi ti si accenderà la lucetta verde mentre stai parlando, è 1 kW, 100 watt, 10 watt, quindi lo metti in posizione 10 watt, quello da oggi è il tuo strumento, quando ti porto il microfono ti porto anche quello, ok? Perché intanto io ce ne ho uguale, ce ne ho un altro uguale a quello. Boh, vabbè. No, cosa vuoi ti dire? Non so cosa dirti, no, cioè. Adesso vai, lo sto guardando con la lente di ingrandimento, cioè nello schermo. Allora, lo smitter, lo strumento, cioè, dalla parte sinistra, forward, che praticamente c'è l'indicatore fondo scala con i watt, e poi l'altro, sulla parte destra, c'è un'altra scala, un'altra misurazione, che in questo momento non riesco a decifrare. Sì, poi c'è la scala delle stazionarie e ciccia. Sì, 1 kW, 100 watt e 10 watt con la commutazione. Esatto, esatto. Ti sto preparando anche lo spezzone, la potenti attaccare, così non hai rottura di palle, perché se no poi non riesci a fartelo, perché non hai cavo, non hai piede, non hai nuda, ecco qua. A posto. E tu sei a posto. Vabbè. Oh, se lo dici tu, vabbè, ok, dai, siamo a posto. Dietro ci sono. Dietro ci sono dei PL. In alto, sulla sinistra ce ne sono due vicini che dovrebbero essere quelli dai 15 e 30 MHz, giusto? 1.5, non 15, 1.5 e 30 MHz, lì ti devi agganciare. Una è l'antenna e c'è scritto A, l'altro invece TX, trasmettitore. Ok? Quindi sappi che l'antenna va attaccata dove c'è scritto antenna, poi TX, io tiro lo spezzone e te ne vai al trasmettitore, al baracchino. Sì, sto guardando le fotografie qua su eBay, c'è il retro, c'è una targa argentata con praticamente le indicazioni su come collegare praticamente l'apparato, dai, il rosmetro, e c'è la scritta Ricce trasmettitore con la freccia indicata su un PL, antenna con la freccia che indica l'altro PL, sì, dovrebbe essere così. Gappa del rosmetro, stiamo parlando del rosmetro, allora gappa del rosmetro. I PL li ho già attaccati dietro con lo spezzone che tu dovrai usare per andare dal rosmetro, wattmetro al baracchino, ok? Vabbè, non aggiungo altro neanche io, dai, va bene così. Ecco, bravo, tu non devi aggiungere niente. Tutto ok. Poi io sento Massimiliano, sicuramente domani e sabato ci vediamo, non so, qui mi faccio ecco il microfono, ti metto la batteria, te lo sistemo, ci vediamo, te lo... sta piovendo al dirotto di nuovo, mia moglie non mi ha chiamato, dice, vedete, no, non mi ha chiamato, strano, perché la dentista sicuramente si è portato l'ombrello. Qua ogni tanto da qualche spruzzata, adesso vabbè, si è coperto parecchio. Daniele, ci sei ancora? Ehi, ah già, sono sempre qua. Mi sto arrabattando a cercare questo cavolo di antenna. Ebbene, hai visto quelle su eBay? Midland Energy o 5 ottavi o mezz'onda. Comunque oscillano sempre più o meno, c'è poca differenza di prezzo, Cioè, 70 più spese più spedizione, 65 più spedizione, più o meno la media è quella. Ehi, adesso mi la sto cercando adesso, perché poi io non so cosa è successo, se sono uscito un'altra parte. Adesso la cerchiamo da 5 ottavi a vedere cosa dice. Scrivi all'inizio quando la cerchi, perché se metti Midland direttamente poi ti incasina, ti fa uscire altra roba. Scrivici antenna CB, così magari sicuramente ti dà più risultati. Infatti di nuovo apparso l'olio, adesso non mi serve l'olio. Gappa. Cavale Rogero, aspetta, sto cercando l'antenna qua. Oh, l'antenna. E cioè ci funziona ancora la scheda fonemica in questa radio. Solo è maleducata. Non parla l'italiano questa radio. Maleducata che non è altra. Anglosassone. Allora, in inglese parla. No, c'ho la scheda fonemica in questo 440. Gli ho insegnato tante volte di parlare in italiano, parla sempre in inglese. Male vette, male ducata. Se gli metti la 380 aspetta di parlare. Ehi, vabbè, qualche giorno le metto un dito se parla italiano. Aspetta, scusa qua, adesso siccome ci sono anch'io su internet, ho beccato per Daniele antenna base CB Venom 5 ottavi, la Venom, quella che stavi, che forse hai visto su Amazon, e qua su eBay la danno 48,90, spedizione gratis. Cappa, adesso mi ho trovato un'altra, la GPE27, 70 euro più 99 euro di spedizione. Questa cos'è? L'Energy 5 ottavi, 75 più 8 di spedizione. State controllando sul computer? Ehi, allora sto guardando col telefono qua. Sto cercando qualche antenna buona. Qualche antenna buona? No, va bene anche la Energy, qua c'è la marca, arriva in capo al mondo, arriva benissimo a tutte le parti. L'Energy è favolosa, prende la 5 ottavi, non sbagli, se ne scende quella e si mette la 5 ottavi. Si aggiunge l'altro tubo per far uscire il radiale almeno un metro dal tetto e tu sei a posto, Daniele. Sei a posto alla grande. Poca spesa, perché se vai a comprare altre antenne è su per i 100 euro. Invece con quella con 70 euro te ne esci. Sì, no, il palo l'ho già piazzato. Il palo ha voglia, già la supera adesso più di 50 centimetri, che il palo è... Il piantone è tutto basso. Capito, c'ho altri 2 metri da salire, pensa tu, se metto quella esce la grande. Allora, quei 2 metri li sfrutti quando praticamente c'hai i radiali, se no non ti serve a niente. Li sfrutti così e fai uscire i radialini e basta. E quella lì la diamo a Gianni, capito già. Quanto ne è avanzato già di cavo? Un metro, qualcosa, così? Guarda, adesso, vabbè, ne ho approfittato per non lasciare il cavo in mezzo ai piedi. Praticamente mi sono spostato il baracchino in una posizione più comoda, me l'ho messo sulla scrivania, quindi momentaneamente, te l'ho detto, il cavo non l'ho toccato, è tutto intero. Quindi gli ho fatto fare un giro e me lo sono messo in una posizione più comoda qua sulla scrivania. Esatto, bene, la scrivania deve andare allora. Va bene, quindi il cavo ci arriva benissimo, perciò non hai bisogno di niente, perché quel pezzettino che hai lasciato attaccato all'antenna ce l'hai in più, quindi vai a collegarti direttamente col PL all'antenna che poi ti darà Daniele, capito? Perché qua c'è il PL sopra e il PL sotto, quindi per il PL non ti preoccupare. Adesso vediamo se Daniele riesce a far arrivare questo cacchio di antenna, così quella lì la passiamo a te e c'hai già il microfono buono, ecco, la radio sta funzionando benissimo anche se è vecchia, microfono buono, infatti lo strumento per tenere tutto sotto controllo, l'antenna c'è e mi sa che sei che è a posto. Confettato si dice. E allora ho detto devi avere fede e pazienza. Adesso stavamo parlando di strumenti, ho detto ma io mi pare che ne ho due uguali dentro l'armadio. Infatti ti stavo, lo stavo pulendo e controllando, l'ho attaccato, funziona perfettamente, c'è anche sopra il buchetto col gommino per se uno ci vuole mettere la lucetta, ma non c'è bisogno, è abbastanza visibile, e quello lì trovo a te, così ce l'hai uguale a quello che ho io, va bene, vanno bene quegli strumenti. Uia uia. Bisogna sempre fare, bisogna darci una mano uno con l'altro, se no non si va avanti. Esatto. Poi quando trovo l'occasione, vedo cosa compriamo. Ma sono passate sotto mano, tra fine anno, il periodo di Natale e i primi, forse gennaio, febbraio, di Bell'Radio, capito? Tipo 140, mi è passato di mano anche un 440 che ho fatto vendere al volo tutte e due, quindi se poi hai necessità me lo dici, già la troviamo. Mi sembra che ne ho già una io a Sassari che molto probabilmente se ne vogliono disfare, molto probabilmente, a un prezzo abbastanza interessante, però ti ripeto la nuova proposta non mi interessa, io i due gemellini ce li ho, il 430 e il 440 e mi basta, non ne compro più perché c'era un periodo che avevo 240, avevo 680, 430, 2 440, mamma mia, ma ora sono riuscito a farli tutti fuori perché glielo sai da niente, a me già le compro le radio perché si fidano e quindi le avevo tutte vendute. Vabbè, comunque quando decidi ve lo dici, già ci mettiamo in movimento. Eia, se va in porto un'operazione, più avanti ne parliamo, Cla. Più avanti ne parliamo. E così mi sistemo. Gappa, non ti preoccupare, ce la troviamo una radiolina bella. Te la metti lì e già va bene. Avanti, già. Eia, stavo, vabbè, così a livello di casseggio. IL elettronica Energy 5 ottavi, 70 euro. Come è scritto questo IL elettronica? IL normale? Imola puntato, Livorno puntato. Cappa, me l'ho ritrovato. Quella è un'azienda seria, e li conoscono a vita, è una grandissima società, poi sono tutti separati, però hanno sempre tantissima roba, sono serie, tu li chiami, ti dicono come effettuare il pagamento e trasferiscono immediatamente, subito. Hanno SDA, Bartolini, GLS, DHL, dipende da quello che devono spedire. Forse per un'antenna usano Bartolini, capito? Però non manco di arrivi, tanto stai appresso a Tonino, ti esce la barba bianca, tu ce l'hai nera, ti esce bianca. Già mezzo bianca, io ti diventa bianca del tutto, Cla. Certo, che elemento, mamma mia, almeno di la verità, guarda, un troppo straordinario, oppure, di la verità, ti sto dicendo a Gianni Doppio Roma, gli ha fatto, mi ha incazzato Gianni Vini Uomini, perché come carattere è abbastanza tranquillo, ma anche non le pesti veramente le balle, ma l'ha fatto talmente incazzare che l'ha parlato anche male. Ogni giorno, domani, alla fine l'ha mandata a fanculo già. C'è una cosa allucinante, ma come si fa? Ma che venditore sei? Poi si lamentano quando andiamo a comprare fuori. Ma in picca di che? E infatti, cioè, poco da girarti, arriva o non arriva, le due sono le cose, non dire altre fesserie, perché tanto poi già si capisce al volo, se la verità è una cazzata. Vabbè, allora ti dica, Cla. Sì, ma non va bene comportarsi così, capito? Perché poi non ci va più nessuno, poi caro Ghera Breda, cioè no, allucinante, capito? No, non va bene, Quindi, cioè, se tu, io ti faccio un ordine, tu mi dici guarda, fra una settimana è tutto qua, è normale, sei tu che stai vendendo, tu che operi con i tuoi fornitori e sai quando il materiale arriva. Ma se io passo tra la settimana e tu mi dici no, la prossima settimana, così facciamo già. No, guarda, non è arrivato niente la prossima settimana, va bene. No, non è arrivato la prossima settimana. Mi pare la quarta settimana si è rotto il ballo, già, te l'ascolta, ma chi stai prendendo per il culo? Oh, ya va tu, beh. Va bene, va bene. Oh già, ma aspetta, che qua non riesco a trovare un cacchio io in questo sito. Gianni, va bene, io il computer ce lo aspetto. Vai già, parla con Daniele, non ti preoccupare. Falli, dalle una dritta per trovare questa antenna. Guarda, cioè, è uno dei primi risultati. Imola.livorno.elettronica. Clicchi sul link che ti appare e la prima cosa che vedi è l'antenna che stai cercando e quindi ti appare la foto sulla sinistra e il prezzo sulla destra. Allora io qua l'ho cercato, ci sono sull'elettronica, poi mi dà la videata, dove c'è scritto questo Iaesu in alto, cerca nel sito categoria prodotto e poi appare tutta questa serie di sottomenu, diciamo, occasioni, vedi, telefonia, sicurezza, navigatore, nautica, però non trovo antenne. Allora, io ho fatto così, ho digitato su Google antenna CB Energy 5 ottavi, e praticamente è il primo risultato, ielelettronica.it, clicca quel link e ti apre proprio la pagina dove c'è l'antenna, senza smanettare nel sito, capito? Boh, trovato, smanettando nel sito sono riuscito a entrarci, dai, a posto, trovato, sì, 70 euro. C'è la foto sulla sinistra e l'affare, il link con il prezzo sulla destra, giusto? E chi è? Chi è qua? Avanti. È Eugenio Migià. Ciao carissimo, come stai? Ciao Eugenio, ehi, siamo visti con Gianni stamattina e niente, è tutto a posto? Vai già per Eugenio. Ehi, ma ora sei in barramobile, perché sei vicino, perché oggi riesco a ascoltarti molto bene. Eugenio, Daniele, buonasera. Va bene, dammi un rapporto segnale a vedere com'è. Cacchio, l'altro giorno andavo più forte, ma l'altra radio. Guarda. Avanti in campo, Eugenio. Daniele, cosa pretendi? L'altro modificato arriva molto bene. Vedi, io già che arrivi bene nel saporottolesi. Col cavo nuovo è un'altra guba. Di là c'avevi due spezzoni giuntati, tra l'altro uno a 75 ohm, uno da 50, e non va bene. Invece così si è a posto. Riprendi con Eugenio, che voi mi conoscete, avete roba da dirvi, vai già. Eugenio, qua arrivi Santiago 5 Radio 4, cazzo, proprio 00, tipo la farina, cazzo, neanche il pelo di Curico, bubu, va bene, dai, l'importante è che ci si senta, quindi non sei in movimento, dai. No, Eugenio arriva bene qua, alla grandes. Sì, Santiago 5 qua, col mio strumentino che adesso è un po' più preciso, la radio 4, dai, già va bene. No, qua è più alto, qua arriva quasi 9, radio super 5. E qua non fa attaccare la scarpetta questa radio, che sennò va in saturazione, non ce le fatte regolabili. Ah, così. Anch'io sono 00, oh Eugenio. No, tu arrivi bene. Alla grande, vai benissimo. Vieni anche Eugenio, ha iniziato due fesserie, si è preso un baracchino serio per casa, ho già un microfono preamplificato, tutto così, roba girata tra di noi, ha messo un'antenna buona e arriva bene, in macchina c'è un bel impiantino, nel campo è lo stesso, e tira a campà, e piano piano già... Te lo mettiamo a posto a Gianni oggi, adesso ha messo il cavo nuovo, l'ho portato stamattina, adesso vediamo di mettere l'antenna come Cristiani, un microfonino riamplificato, due stronzate e lo facciamo risuscitare. Avanti Eugenio, fatti sentire, aiuto. Sicuramente ha chiamato la moglie di Eugenio. Me l'ho immaginato, ma piovendo sta protosa. Che palle però questa qui, raga. Mamma mia, sei ammazzo, pazzerello. Speriamo che smetta. E ci abbiamo anche a rischio Pasqua e Pasquetta. Bella rottura di scatole. Avanti già. Vabbè, diciamo che Pasquetta è sempre stata un terno all'otto, Cioè, che mi ricordi, a livello di memoria storica, è sempre stata a sorpresa, dai. Quindi, secondo me, non bisogna fare troppo affidamento neanche questa volta. Vabbè, ma siamo ad aprile già, insomma, un po' di tempo buono. Se uno vuole andare in campagna, non è che tengo in campagna per stare dentro casa. Passare dentro casa me ne sto a casa, non vanno in campagna a Castiglia Eva. Claro che sì, claro che sì. Beh, oggi la moto trattene da te. Sì, vabbè, si è calato un po' di segnale, comunque riesco ad ascoltarti, dai. Fai bene amico mio, fai bene. Finché le cose vanno bene è meglio approfittarne del vento in poppa, come si dice. E quindi meglio così, dai, sono contento. Caspita, vabbè, io sono rimasto fermo un po' di tempo fa, dai, comunque già mi immagino cosa tutto hai combinato. Ma sempre HD, ruote grosse o ruote sottili, come sei messo, tipo Fatboy o altra roba? Vabbè, adesso sono un po' fuori dal mondo, e quindi sono un po' fuori dal mondo e quindi sto cercando di... a livello di stile come siamo messi? A livello di stile, cioè come più o meno a cosa si avvicina la nuova moto? Si è sollevato questo rumore adesso. Niente, ok, quindi cupolino, parabrezza, roba del genere. È tipo le moto della polizia americana, dai, per intenderci, a grandi linee, ok. Bene, allora sei diventato mezzo chips, dai. parlo a livello di già mi hai capito, a livello estetico mio, a livello di forme, la moto più o meno è quella, dai. Poi chiaramente lo so che siete una parrucchia. L'importante è che sia di tuo gradimento e di tuo gusto. Quindi sono sicuro che è una bella motoretta, nonostante io sono già mi conosci cosa penso dei marchi presi così in generale, però tu sei una persona a modo, quindi ti capisco e va alla grande per quello, perché già lo sai come la penso, no? su certe situazioni, comunque roba che con te non c'entra niente, preciso, con te e con altre persone che conosco, tutte rispettabilissime e persone meravigliose. Ok, dai, se no monopolizziamo il canale, avanti qua. Sì, io siamo puliti, già fa bene parlare ogni tanto tra di voi, non ti preoccupare. No, io l'ho vista, mi ha mandato una foto molto bella, poi quando ti attivi WhatsApp te la mando. Molto bella, bellissima moto. E vabbè, lui è appassionato di quelle categorie lì, mi piace più quella da strada, dai, però quelle sono molto belle. Quant'è Ruggeri di cilindrata? 1.800, 1.700? 1.700 di cilindrata, sì. Va bene. Ia. Coso Simone aveva il Triun 1.500, mi pare. Ma viene la ruota, dai, dobbiamo la ruota del camion, scegna la ruota. No, ma infatti c'è una ruota dietro allucinante. Ci eravamo trovati al primo motorraduno del Candelieri Città di Nulfi, e ci sono andato anch'io, là c'avevo l'Hornet, ci siamo trovati lì. Era bellissima moto, ma dietro era troppo grande, cioè sta ruota ci aveva più grande della ruota della macchina come larghezza. Esteticamente non era un granché, però una gran bella moto. Fai un 1.500 in parche. Va bene, va bene. Daniele, riprendi? Sì, si è sollevato il QRM, Gianni, perché sta piovendo di nuovo. E quando piove si solleva il QRM, capito? Vecchi, vecchi, me. Dai, faccio una tela di bianco, vado a farmi una sigaretta. Io sto fumando in stanza, c'è la mia stanza, c'ho la finestra aperta. Mi ho acceso poco fa, ma leggo due pezzi. E c'ho la finestra aperta, però, anche se c'è il riscaldamento acceso, non me ne ha fatto niente. Qua ci sto io e comando io, vero già? Ehi Gianni, adesso Massimiliano le dà un M93 che tanto non usa, capito? Stiamo cercando di farlo uscire un po' meglio, dai. Chi ha una cosa, chi ha un'altra, cerchiamo di farlo andare meglio. Adesso con quell'M93 dovrebbe aumentare di radio perché è un microfono più amplificato. Un Midland sta usando, un Midland con microfono normale, non ha di pindini, no. Quindi Daniele ci deve cambiare l'antenna e quella di Daniele si passa a Gianni, così arrivi pindini, no. E va bene, capito Eugenio? E piano piano già lo facciamo aumentare, vai già. Eugenio, c'ho un vecchio baracchino degli anni 70, roba giapponese, era dentro un camper che insomma... un camper fermo ed era dentro il cassettino, l'ho preso, gli ho dato una bella spolverata, l'ho collegato e funziona, e ancora con i quarti, figurati tu, è roba degli anni, fine anni 70, l'hai vista col cassettino piccolino come antenna, già va bene dai, tutto fa brodo come ti si dice, mai lamentarci. E noi vi siamo gnari, ormai siamo ripopolati, intanto dovevo andare a questo tempo. Magari l'estate siamo un po' più assenti, ma io mi organizzo meglio e già ci sono lo stesso, capito? Però con questo tempo dovevo andare, siamo tutti intanto a casa, a me uscire con la pioggia, stare in giro, mi sono uscito stamattina, che ho fatto il portato in tavo a Gianni e poi me ne sono andato subito a casa. Ma vai poi la vendeva, una rottura di scatole allucinante, perché freddo non ce l'è, c'è una finestra aperta, io non ce l'è freddo, però l'acqua è fastidiosa, non fa neanche uscire moto, è nudo, vabbè, infatti stamattina l'ho messa in moto, 10 minuti, un quarto d'ora, giusto a farla scaldare, e poi l'ho spento e ho preso la macchina, perché visto che era nuvoloso non mi sono affidato. Alle 8:30 di sera, oggi a quell'ora stiamo cenando, magari a volte io e Tino con Franco riprendiamo dopo cena, un'altra oretta, capito? Però dipende anche da quello che c'è la TV, perciò, però alle 8:30 no, io verso le 8:15, le 8 chiudo, vado a portare il cane, poi ceno, se non c'è nessuno non rientro più. Ma capita qualche sera che ci tratteniamo io, Tino e Franco, capito? Anche Gianni a volte, Daniele, però è raro, dai. Prima dopo cena di rilassi, nello divano, mi guardo un po' di TV, è un casino, anche se io sto comodo qua, abbastanza. Però non è più come te prima noi oggi. No, io proprio niente. Ma siamo fatto già un paio di volte, lo sono uscito l'altro giorno, che sembrava bello, e poi alle 2 ha cominciato a freddo, capite? Adesso magari per fine settimana si poteva anche uscire, e invece mi sembra che ha dato acqua anche domani, domenica, se la bidellucci. Vabbè. No, ma già, vedrai fra un po'. Esce molto molto meglio Gianni e Eugenio, perché si mette l'antenna come Cristiani, che abbiamo procurato noi, grazie a quella, c'è il cavo nuovo, c'è tutto nuovo, la radio sta funzionando, per il momento si usa quella, se poi c'è qualcosa da recuperare di meglio si mette anche una radio come Cristiani. Vai già. Sì. Bene, meglio, va tutto bene da quel punto di vista, dai, non... Va bene così, non aggiungiamo altro, come si dice. sì, qua l'acqua sta aumentando. Io devo andare a recuperarmi la moto giù in campagna, che ce l'ho giù in campagna. Insomma, appena mi sarà possibile, devo metterci la batteria nuova, dargli una bella spolverata e riportarmela a Sassari. Ma spero che ce l'hai dentro, custodita, sì, non fuori. No, è dentro un capannone, coperta, quindi a quel punto di vista non ci dovrebbe essere problemi. È custodita, sì, dentro un capannone, coperta, sarà piena di biuvaro. Vabbè, quello già non mi spaventa, l'importante è che sia polvere e non ruggine, quindi... Eh sì, appena posso la voglio riportare su. Allora, appena possibile, te la metti a posto, batteria e via. E si torna alla normalità. No, io ce l'ho sotto qua, sotto casa, la mette molto, c'è il telone, col telone la mette molto, poi all'interno, cioè non è nell'acqua, è dall'acqua, capito? Perché l'avevo portata, c'è il garage, ma l'avevo portata, ma ho detto, ma così inizio a usarla, invece, chi lo sapeva che aprile faceva questo tempo di merda? Sì, oggi l'ho visto per la prima volta stamattina, sì, siamo visti stamattina, ma... 5 minuti proprio, poi avremo modo di vederci meglio, di farci una chiacchierata e andare a prendere un caffè. Ci siamo visti proprio stamattina 5 minuti. Capito? Ho detto che per la prima volta ci siamo visti stamattina 5 minuti e dovevo consegnarle del cavo che ci avevo io e l'ho dato a lui per metterselo nuovo, che il suo era tutto aggiuntato. Ah, con Maurizio eri tu? No, a TeleG lavoravo, Claudio. Ho lavorato dal 92-93 sino al 2010 e poi insomma e poi si è chiuso quel capitolo. Ho capito, ma c'era Marcello e Maurizio mi pare. Li hai conosciuti tu? Non so, tu forse magari stai parlando dei 5 Stelle. Io ti sto dicendo, ho lavorato a TeleG per un bel po' di anni. Sì, poi vabbè, nell'ambiente ci si conosceva un po' tutti, dai, quindi bene o male ci conoscevamo un po' tutti. Hai ragione, il fratello è morto, me lo sai Maurizio, sì, esatto, è una solito fantà, l'anno scorso poverino, metà mia ci aveva, lo so, lascia perdere. Lo so, purtroppo è andata così, ma ce l'ho solo una vita e non lo vedo. Maurizio quando ero a Olbia lo vedevo spesso, anche perché io c'avevo la zona industriale, quindi loro erano lì, lo vedevo spesso. Sì, a Terre Regione era lui, 5 Stelle. E fine ha fatto già, ha chiuso definitivamente, è fallito. No, già è ancora attivo, sta ancora funzionando. Sì, è... Di Sassari c'è Teleregione e Canale 12, praticamente, le due emittenti di Sassari, quelle accese sono quelle due, Antenna 1 ha chiuso svariati anni fa, infatti le frequenze di Antenna 1 le ha comprate Canale 12. Sì, ce l'ho Canale 12, cioè è ex TeleG quello. Negativo, no, la televisione è nuova, però ha comprato le frequenze di Antenna 1. Dei fratelli Coni, ti ricordi? E di chi è oggi? Fratellini Gadi, Tino Tellini. Yes. Un macco, chi ne? Cosa è venuta? La voglia di lavorare a 50 anni. Ed è la sua proprio, la sua personale. Se un'intelligenza vi va. Eravamo a scuola assieme, era una grabba. Ah, ecco, bravo, sì, Daniele. Sì, bravo, infatti. No, perché lui era un bravissimo calciatore. Non è riuscito a fare manco quello, figurati. Poi in politica non è riuscito a fare manco quello. Lasciamo perdere. Io l'avevo trovato quando facevo la Ginara, capito? Il martedì e il venerdì, ed è capitato proprio quel periodo che loro avevano occupato la Ginara. E c'era anche lui, perché lavorava in una società di Porto Torres, dove era successo casino, e comunque erano andati tutti ad occupare la Ginara, e io lo trovavo lì a volte, nel traghetto soprattutto lo trovavo, andando ai torrenti, a chi voleva la sindacalista non riusciva a far manco guiscio, ad avere una sua emittente TV vuol dire che è appoggiato da qualcuno, e vabbè, quello c'era di vizio, sì, ma infatti io lo trovavo lì. Andavo il martedì e il venerdì per controllare la situazione appunto delle vasche, delle cose, lì a cambiare i filtri alla stazione di pompaggio di Carareale, a volte ci trovavamo lì, mentre io aspettavo il traghetto. Capito? E vabbè, sei riuscito a fare, cazzo, per carità, per quello sei riuscito, siccome lo conosco da ragazzino, quindi, una cosa molto strana, tu cosa ci dici oggi, bravo Gianni, poi vai per Daniele. Non pervenuto, non so chi sia, non so chi è, quindi NN, non ho proprio, non lo conosco. Non l'ho mai conosciuto e attualmente non conosco nessuno che abbia questo, insomma, questo nome e cognome, quindi non ho, per me è un perfetto estraneo, non so chi sia, Io ti ripeto, quando c'ero ancora in mezzo nell'ambiente ci conoscevamo un po' tutti, Antenna 1, 5 Stelle, Videolina, Sardegna 1, la redazione di Sassa, insomma, cioè Super TV, che era, insomma, quando esisteva ancora Super TV, bene o male, ci conoscevamo un po' tutti, tra giornalai, operatori e roba del genere, quindi, e niente, poi dal 2010 ho staccato la spina, quindi, e niente, lì mi sono fermato a livello di televisione locale. Ho capito, avanti Daniele. Gaba. Stavo pensando a una cosa, se riusciamo a buscare o 213 o RG58. 213 o RG58? Sì, o uno o l'altro. Io di 213 posso avere qualche spezzone. No, spezzone sto parlando di 4-5 metri, perché io praticamente ho il commutatore elettronico su, quindi dalle antenne arrivano tutti gli spezzoni, perciò li ho fatti tutti a misura, arrivano tutti gli spezzoni al commutatore elettronico, ok? E poi c'è l'unico cavo di discesa che scende, quindi posso avere qualche spezzone, ma quella misura che vuoi tu no. RG58 manco a parlarne, perché quello che ho dato a Gianni è nuovo, praticamente è preso nuovo, capito? Avanti di magazzino, chiamiamoli così, perché non ne sta ordinando neanche più nessuno di RG58, ormai stanno usando tutti il 213, l'H1000, l'H110, l'H115, che sono tutti cavi a bassa perdita. RG58 ormai non è entrata più nessuno, guarda che l'ho tratta. Per fare la giunzione con 213 mi serve la stessa impedenza, capito, cra? E perché con 213? Cioè praticamente non ti basta quello che hai, quindi vuoi mettere il barilotto, PL e giuntare. No, perché adesso sto usando, perché ho fatto una cosa provvisoria, sto usando il 213 giuntato con l'RG58, no, col barilotto e tutte cose. E quanti metri te ne serve di questa giuntura di praticamente per giuntare, eliminare il RG58? Buoni, più di 20 metri, là. Cazzo, di non è nuda. E lì dovevi comprare allora, e chi ce li ha? Io ti ripeto, se fossero stati 4, 5 metri, 6 metri, e qualcosa dovrei avere su, perché ne avevo comprato una matassa da 50 metri, e avevo fatto tutti gli spezzoni, dalle antenne al commutatore, capito? Perché agganciano tutte lì, ed scende un unico cavo, prima scendevano 4 caratteri cavi, 5 caratteri cavi. Quando abbiamo messo le direttive abbiamo fatto, Fabrizio con Maurizio hanno fatto un lavoro fatto bene, unico cavo di discesa, capito? Manco la manta faccio io che scende, ce l'ho direttamente attaccato al commutatore e commuto da lì, capito? No, io non ti posso aiutare, capito? Di quella lunghezza lì non ne ho, se ti serve qualche spezzone sì. Ma è questo, è H1000, così è. L'H1000 ce l'ho io. L'H1000 ce l'ho io come cavo di discesa unico per l'HF. Per l'HF. Io praticamente ho un unico cavo H1000 che scende, mentre tutte le spezzoni, compresa anche la manta, le direttive, tranne le V e le U, ok, quello c'è. H1000 lo stesso cavo di discesa, quindi scendono due di cavi anziché 5, due, e quello è tutto H1000, è quello, signor cavo, molto più morbido, rispetto al 213, costa un po' di più, bassa perdita, va bene, un ottimo cavo, capito? Però 213 lo paghi molto meno, se devi giuntare giunta 213 con 213. Infatti, perché quello è già su, capito? Devo fare poi la calata, diciamo, perché sennò non riesco a gestirlo. Un unico spezzone. Adesso dai, arrivi, vedo un po' su internet, me lo prendo un 213. No, un 213 già c'è anche, mi pare che c'era Grassi a buon prezzo, se te lo puoi andare a Fusaro alla GBC, no, a pagarlo a 2,50 a metro. Capito. E al limite guardo, mi informo per quanto costa il sasso. Ti faccio sapere. Vai già. Cos'è invece stato sollevando di brutto? Sì, la pioggia sta aumentando. Non so se Eugenio c'è ancora sotto. Eugenio! Ehi, a me Eugenio, che starà stuzzicando, lui a quest'ora va a stuzzicare, capito, a mangiare. E oggi, oh, Gianni ti ha chiamato. Ehi, ho detto, no, era per controllare, per vedere se eri ancora, attivo, ci siamo parlati sopra, vedi? Ehi, sì, te fa vedere e tu non le rispondi. 1, 2, 3, Eugenio, mi senti? Non senti? Siamo a Sergio Guerrema, Già, perché la radio è bassa, capito? È bassa la radio, attacca dello microfono, poi dire in bocca c'è il microfono. Che ti occorre, ragazzi? Un incubo è. Eugenio, mi senti? Attenzione, Eugenio. No, è solito anche a me. La pioggia, mi fuscio dalla pioggia, capito? Vabbè, adesso vediamo, anche non si vediamo, lo faccio vedere il microfono, almeno di radio sei più forte. Poi, vediamo. Daniele, ordina questo cazzo l'antenna, ordina, lascialo perdere a Tonino, ordina questa antenna, aiuto. Ehi, Acla, registrate il break, avanti con la buonasera. Buonasera a todos, Gianni Lupi. E intanto non ti aveva riconosciuto nessuno, vabbè, a casa Sese. E io ci sono... Meglio così, e poi non recupero la pioggia, là. Sì, c'è una No, locale, sono arrivate certe murene locali, bellissime. Sono arrivate 4-5, l'ho venuto proprio. E il locale c'è poca roba, le signorate sono un vecchio, pulche, con le locali che sono le mani di cartiere, con paraggio. Quelli sono prese, sembrano pescate in mare. Oh già, ma attivo ce l'hai WhatsApp? Che ti mando una cosa che non ho mai visto in vita mia. Mina Giubicchio mi durate grande. Guarda quella che ha preso il mio genero a Badesi. Sì, io ce l'ho attivo, ma c'è il telefono scarico, sta caricando. Mi sta combinando il mangime per le capi, che è arrivato sul più bello, mi si aspetta il telefono. Vabbè, l'hai messo a caricare. Già ti arriva. Guarda questa bestia. A Badesi. Sotto Badesi, una spiaggia di Badesi, adesso te la mando, poi te la guardi quando c'è il telefono attivo, una cosa impressionante, ma bella, grande, ui. E quanto chi l'ha pesata? Guarda, non l'ha neanche pesata, fai tu, guarda la foto e dimmi quanti chili può essere questa bestia. Va, io quella che ho preso più grande è 3 chili, non l'ho preso più grande, però era bella. Nella domanda, l'ho pesato il video militare, ma lì a Badesi ci pesca un bel bello, lo so perché ci andavo un anno io e perdeva sempre. Già, una cosa impressionante, non ci andava mai, con mio fratello e altri amici, non una cosa allucinante. Ho detto, ma pesate la vetta? No, ho ripesato nulla, non ho pesato niente. Mi ha mandato la foto su WhatsApp. Quando è? Sabato, no, domenica mattina. Sono andato a presto, era ancora buio. Che c'era quella risacca, cos'era? Lì Beccio, cos'era? Il maestrale, cos'era il gioco? Ma lì da cos'ha pigliato? Ma poi da cos'ha pigliato? Sì, ma quella Pasqua in campagna. Abbiamo già un'acqua pulita con l'acqua di mare, tutto è già in freezer. Ma una cosa così non l'ho mai vista oggi. Allucinante. Un pizzino non hanno Bari. Ma vai a portare. Come la devo fare a brodo? È un fotomontaggio. È un fotomontaggio, sì. Questo è un fotomontaggio, Ma c'è lui che la sta mantenendo. Sono lì che è un fotomontaggio, sta fregato. No, vabbè, comunque ho peccato, Flavio. Scusami se te lo dico, aspettare a Pasqua. Io l'avrei mangiata subito, fresca. E noi non dire che più andate a piccare, allora da far pigliare la fresca e tirare la mani congelata. Già, congelata fresca, no, ti. Io lo sai, io rispetto le gambe se mi manda i fotomontaggi. No. Lascia verde. Buonasera, ciao Gianni. Ciao, sì. No, io già ci credo. Questo qui è il periodo che le orate abboccano a bocconi, perché mangiano roba a bocconi a grammi. Guarda, vedo tanti quei bucconi di granchi, a posto tutto se ne comprano un bel tutto per gli orati, per andare a pescare. Qualcuno compra anche sardine, ma poca roba. Qualcuno prende anche le sardine, ma di solito bucconi e cose, prendo le granchi. No, ma non c'è buono a pescare, cioè, quello è mio fratello che organizza tutto, non c'è bravo. Non ci stava più andando, la domenica che ha fatto quella giornata bellissima, calda, di sole, molto bella. Sono andato a pescare. Ma bella, veramente molto bella. Alberti, rientrato sì? Sì, ero al campo lì con Grandiero. E poi ero al telefono con un amico di Porto Torres per verificare le cose. Chi è? Buonasera. Non mi capisci? Ma non c'è un tatuaggio. Vabbè, guarda adesso se mi capisci con questa. Vabbè, non so chi sei, comunque buonasera. Ciao G. Vabbè, ma ti vedi a dire non comprendete, perché c'hanno baracchini con la cassa troppo stretta, mio Orti, capito? Io vabbè, con l'altoparlante del K, già lo sai, rimbomba, però è abbastanza, molto amplificata, ma abbastanza chiara. Sì, bello. E Boudou siamo anche dei tatuaggi, mentre me ne butti. Cazzo, me ne butti, cioè, la figlia di Antonello, lo conosce mio fratello, no? È tutta piena. Fa poco ce lo fa, se pure mezzo all'anchi. E così ce li ha mia nipote, tutte e due, un braccio e l'altro braccio. Sotto la morale del Boudou e tutto il petto. Non si vede neanche i ditti. Senza dire la schiena, le gambe, sto dicendo che a me non piace così, mia figlia ce li ha, ne avrà 7-8, però tutti distanti, tutti, ce l'ho anche io, per dire, però cazzo non è che voi abbiamo i grazie, tutta la morale del godo, sei sempre una ragazza, non va bene così, capito? Assolutamente. Avanti Gianni, poi vai per Daniele, vai. Io per non sbagliare, ho un braccio e non è l'altro, ma non puoi farlo in tre, ma non è faccio l'altro, ma ci sono stati tre volte, non è l'altro. Avanti Daniele. No, non lo so. No, non lo so, ma probabilmente se non faccio di tanto i nomi di miei figli, un braccio non è l'altro, ma so, non lo so. No, io questa storia non lo so, l'ho detto anche mia figlia, ma non lo so. Gianni lo profeta, tu tatuaggi non hai? Sì, ne ho uno sul braccio sinistro, sulla spalla sinistra, piccolo, fatto un sacco di anni fa, non è colorato, è solo nero. E c'ho e c'ho una mia raffigurazione qua, l'Ubrofetta qua sulla spalla a sinistra. Ah ecco, vabbè. No, ma Gianni, doppio room, 2 e 3 vanno bene, ma se tu vedi mia nipote, impressionante. Se vedi, non so se hai mai visto la Nangolana quando si toglie la maglietta, no? Calciatore dell'Inter. E mia nipote ne ha più di lui. Cioè non c'è uno spazio vuoto, capito? Anche perché hai capito chi è mia nipote, no? È quella che lavora per l'autore della Manolami, ecco perché si fa il tatuaggio, è che viene gratis. Io ho capito, con la mattonina e satellite. Le satellite? No, perché le satellite? Non la metteva a satellite. Quando non è satellite, no? Via delle villette ci sono entrando a Porto Torres, via Piemonte, dai, che fa faccia alla strada, e poi dall'altra parte, sì, col padre, ma non abita più col padre, abita a Porto Torres. Comunque io uno l'ho fatto la mano là, però quando era ancora via Piemonte. Chi? Io c'era Ripozzi, sì. No, che comunque ci ho capito. Perché ne ho fatto un tempino da Manolami. Sì, sì, sono bravi, anch'io l'ho fatto lì, ma questo praticamente me l'aveva regalato mia figlia quando ho fatto 50 anni, c'ero 9 anni, quindi, capito, però ne ho uno solo io, basta, non mangio di altri. Avanti, Tino, riprendi. Dai, riprendo io, scusate se mi interrompo, che adesso chiudo. Che devo fare una commissione. Ci sentiamo domani alle prossime se coincide, dai. Ciao Daniele, alle prossime, vai ti. Ciao Daniele, ciao. Eugenio, ora mi ascolti. È comprensibile ora la radio. Vuoi dire, è comprensibile ora la radio. E a me ancora passo, mi senti Eugenio. Mi costringe a accendere la radio, è perché mi ho voluto l'accendere, la farò scaldare. Ah ecco, e io mi ricordo il padre di Giampaolo Silvestri che aveva la sirena, sicuramente era un portuale padre di Giampaolo, comunque mi... E Zambo, è Zambo era portuale, sì. E c'aveva una sirena tutto disegnata da parte superiore del braccio, una sirena molto più grande, là. Poi ne aveva altre portuali. Però quella è quella che ci montava in giro. E vabbè, non mi sono fatto sbarcato. E vabbè, rientro a casa, tatuaggi. A chi piacciono, io uno ce l'ho e non me ne faccio altri. Mia nipote ne ha troppi, per conto mio, poi. Babbo non ha mai detto nulla, già arrangia, me la futta a me. Mia figlia ce li ha, ma non è tutta piena. Ce li ha, ma sono tutti, insomma, sparsi. Va bene. Daniele quindi si è allontanato, riprendi Gianni Lubrofetta. Eia, colgo l'occasione per salutare Gianni Doppio Rume e Tino. Buonasera e ben sentiti. Ciao Gianni, ben sentito anche a te, dai. Tino sta ancora smanettando sicuramente, chissà adesso cosa starà combinando. Sì, comunque gli ultimi passaggi che ha fatto erano comprensibili, appena entrato praticamente non riuscì a comprendere nulla, quindi è meglio se l'ultimo passaggio che ha fatto era riuscivo a capirlo. Comunque buonasera anche a lui e niente, avanti Eugenio se mi senti. Ah ecco, io tutti vuoi bene. Che tatuaggio ti hai fatto? Mamma la ridete. Sì, ce l'ho 9 anni già, uno scorpione c'ho, il mio segno zodiacale, nel braccio destro in alto, non si vede neanche quando sono maniche corte, non mi piace a me avere i bracci gagati. Capito? Poi ne volevo fare un altro, l'altro braccio, però no, non me l'ho mai fatto. Quindi ne ho uno, ma va bene così. Io no, io gli animali non li posso vedere. Uia. Gli vogliate un asciutto 15 di fa Gianni, ma asciutto però. Questo perché? C'ho Filippo cardiopatico. È diventato cardiopatico. L'ho portato alla solita ora. praticamente come sono uscito dal cancello ho visto che si è puntato, ma io non mi ero accorto di niente. C'era un altro cane grande, non riuscivo a tenerlo, ma anche la bava ne stava scendendo. Si mi scappa se siete un casino inizio. Ma incazzato Jack, non l'avevo mai visto così. Uscivano i canini fuori, la bava, la bocca, la bava riusciva. Una cosa allucinante, meno male ho comprato il guinzale nuovo con la catena adesso perché avevo sempre paura della fascia, no? Quelle fasce di nylon della pettorina, e quindi ho comprato la catena. E niente, a un certo punto quello se n'è andato, ha comprato il camerario, ha iniziato a calmarsi un pochettino, avrà fatto scendo 50 metri, boom boom, e si gocca Rugani. Non lascio, morto, mi hanno detto un Filippo è morto. Morto il cane, un infarto. L'ho subito, sai, c'ha il cuore sotto il petto qua, no? L'ho tutto massaggiato piano piano, lo accarezzavo, cercavo di piano piano e ha iniziato a respirare. Cercavo di metterlo in piedi ma si ricoricava perché era molto debole. L'ho lasciato un pochino sdraiato, sempre massaggiandolo, e alla fine ha iniziato a alzarsi da solo. Si è alzato da solo e subito l'ho portato al veterinario per vedere che cos'era, mi ha misurato la pressione, tutto a posto, mi ha fatto le analisi, cardiopatico. Sì, si incazza, ma se incazza dura l'uscire e rimane secco. Allora, incazzatura allora, ma non l'avevo mai visto così, una belva, non può vedere Gani Manniga, stava cosa di una frutta, quello era un marciapiede, io stavo uscendo dal cancelletto, niente, ormai non te l'ha visto, allucinante, incazzatura, infatti mi ha detto la fuci, ma ti raccomando, che non ci c'era più perché può essere pericoloso, ci può rimanere, ma ti hai fatto bene a massaggiarlo subito, cercare di rianimarlo perché stava cedendo il cuore. E adesso devi fare la cazzata? No, l'ha fatta per una settimana e l'ho riportata a controllo, sembra che vada bene, però bisogna sempre cercare di tenerlo molto tranquillo, capito? Infatti non vedo l'ora, vai da Nannini in campagna per il periodo estivo, perché almeno sta tranquillo, sereno, non vede altri cani, è molto rilassato. Ma qua io ogni volta che esco, infatti lo sto portando tardi, alle 8, vedi, ancora non l'ho portato, verso le 8, perché escono tutti verso le 7, 7 e un quarto, 7 e mezza, io lo sto portando alle 8, in modo che non vede nessuno, e soprattutto sto evitando di uscire fuori, lo porto qua nella stradina mia e nel solo il cazzo che sta piovendo oggi. Ma dimmi due, proprio spavento, ma spavento è vero? Per me era morto, un infarto. Beh, ci credo, perché devo dire che la gente sarà così, oh via, e io invece lì, ho questa loboscia sangria che non mi voleva passare, ho usato pomate e questo e quell'altro, ma sto facendo resistere, sembra che si sia alleviato, ma non potevo manco muovere la gamba, non riuscivo a alzare la gamba per mettere la pressione della macchina, ci credo, devo alzarmela con la mano. Ehi, Tino. Gino è Tortorella, non c'è più, è morto anche lui. Ciao, ci sentiamo. Ciao, cioè ti faccio salutare dal tuo amico, vai Gianni il Profeta. Ciao Eugenio, dai, ci sentiamo alla prossima, appena possibile, ok? Salutami la doccia metà e alla prossima, ciao. Ciao caro. Infatti stai uscendo molto meglio adesso, cazzo che no, beh, dallo baracchino che... Sei spostato, va bene, infatti adesso sei Santiago 9, Radio 5, prima ti sentivo un po' cupo. Tino, ci sei? Dove è andato Tino? E dove va a capire la Parigi, quello che non lo so, sarà... Ma non farà, non lo so, forse deve staccare dietro. Oh, via, yeah. Vabbè, che devo fare qua? Come lui, che è come lui, e se ci domani chissà, ti vedo un coi, e non lo Ma se è passato con questa quella che ha fatto non era proprio un infarto, perché questo stato di infarto sarebbe stata una cosa diversa. Se ha fatto l'altro della mia signora sotto la parte è uno spazio. Già non lo gioco, io mi gioco che cado sotto. Per me non dico l'infarto, un collasso c'è stato, si è collassato proprio, si è coricato da solo nel marciapiede, proprio quando uno è camminando e sviene, tipo svenuto, boom, si è coricato, longo longo, ha detto boh, caput, cioè aveva gli occhi aperti, spalancati, ha detto boh, Filippo, caput, invece subito lo, perché visto che respirava, ha capito, quindi subito l'ho massaggiato, cercato di riprenderlo, piano piano, dai che non è niente, poi ho visto che si è ripreso piano piano, però non riusciva a stare in piedi, poi piano piano si è sollevato, ho visto che rimaneva fermo, io non lo tiravo perché non camminava, e invece poi piano piano ha iniziato a fare i primi passi, e ha camminato normale, però subito ho preso la macchina e l'ho portato a controllo, capito? Mi ha detto che si assorbiva da solo, passava due o tre settimane, quindi non si vedeva, era più o meno più vicino, piano piano, sentato, era già guarito. No, non c'era assolutamente niente. Io ho detto già sai manovrare queste cose, tu li vedi tu, metti un po' mattina, già va bene. Mi ha scoricato, dirà, Ciccio, stai guardando, ma non ti pare ora? Dove sono? Dove sono? Sono 10 sono. Io sto cercando, perché esco alle 9 dal lavoro, alle 9 e 4, allora a volte anche alle 9 e 20. E arrivo tardi a casa, verso le 10 e un quarto, mangio e poi verso le 10 e un quarto, 10 e mezzo, vedo che devo fare. Lo so, no, ma io l'ho portato anche due volte oggi, ho visto che non stava piovendo, infatti lo porto adesso, mi preparo, verso le 8 e lo porto, fa la pipì, il resto l'ho fatto stamattina due volte, quindi stamattina alle 9 e a 1 l'ho portato, io va bene. Avanti Gianni il Profeta. Ehi, raga, io vi lascio, vado a mangiare un boccone perché mi sta aprendo la pitorra, quindi ho necessità di mangiarmi qualcosa, anche se no ti paro. Quindi stacco un attimo, vado a mangiarmi un boccone e casomai ci aggiorniamo a più tardi, ok? Già, va bene, intanto mi altri 10 minuti con Gianni, poi vado a portare il cane. Stacco anche io. Avanti già, vediamo se è rientrato Tino. Ciao Lupe, ci sentiamo, dai, buona serata e buona carica per la fase. Claudio, come dieta sta mangiando molto o sta mangiando un po' di carne? Perché anche quello non mi dice. No, benissimo sta mangiando, infatti non riuscivo a capire, ma no, ma è proprio dall'incazzatura, perché l'ho spiegato, però forse gliel'ho detto. Prima al telefono e poi in persona, mi ha detto che è quello perché loro soffrono tantissimo di appunto di cuore, no? Sono tutti molosci e quindi evidentemente si è incazzato tantissimo, ma l'ha trovato in un momento un po' debole, anche perché sono uscito, lui riposa tantissimo, magari era molto rilassato a casa eccetera, è uscito e ci ha visto questa cosa di colpo, si è incazzato e è venuto questo malore, capito? Però l'ha fatto tutte le analisi, sangue, urine, l'ha fatto elettrocardiogramma, l'ha fatto tutto, ha detto sì. Effettivamente sta rischiando, già, c'ha 8 anni Filippo, non è più un cagnolino, quindi mi ha detto già, l'età c'è, perché i molossi non è che hanno grande vita, e 8 anni per loro è già un segno, quindi è già debole di cuore, bisogna stare attenti a non farle cazzare, perché ci può rimanere. Scusate, se avevo una massa mi sono dovuto allontanare. Ripeti, non ripeti. Non so neanche di cosa sarà, credo che sia dei cani, perché tanto Claudio, con Filippo è innamorato, quindi. Filippo ha avuto un problema, che stava dicendo, che si è parato di voi. Oh, l'ho avuto mezzo infarto. Un malore ha avuto, sì, 15 giorni fa. è uscito dal cancelletto, ha trovato sempre il solito pastore tedesco e rompi coglioni, ed era dall'altra parte il marciapiede, ma non riusciva a tenerlo, mi riparava, mi sagravava, ha detto boh, se mi cudo mosso mi risacca lo braccio, che cercavo di tenerlo, l'ho tenuto, quello là si è allontanato, se n'è andato, poi io ho detto adesso basta, finiscila, dai, boh, finiscila, faccio 10 metri, boom boom, e si cocca Rugani, ha detto boh, mi fatto raggiunto. Già può essere, perché magari era troppo agitato, il cuore è andato in agitazione. Siccome loro soffrono, capito, sono molto deboli di cuore, e quindi ha detto boh, come fatto a Filippo mostra Rugani, invece ho cercato di riprenderlo piano piano, e poi l'ho portato al veterinario, effettivamente mi ha detto che era un... lui pensava fosse un calo di pressione dalle incazzature, invece no, mi rivendi, ecco qua, orario, non sbaglia, e la veterinaria la nonno, ehi, ciao, ventino c'è, saluta. No, poverino, perché lui sta molto rilassato a casa, capito? E evidentemente era talmente rilassato che si è incazzato il gruppo e si è fatto dare un fumo. Ma invece a me, un cane che avevo io, un bastardino, l'ho visto e stava girando attorno, come che si voleva musicare la cola. Alla fine l'ho preso e l'ho guardato in faccia e aveva gli occhi solo che si muovevano, lo sguardo, cazzo, fisso verso di lei, però gli occhi che giravano attorno, scendevo dal gambo, indemoniato. Vabbè, quello può essere, ma lui poverino mi ha fatto cagare sotto, sono molto affezionato e ce l'ho da piccolino. Però il veterinario mi ha detto che ha già 8 anni, quindi può già avere degli ammanchi, dei cali di cuore, quindi bisogna tenerlo molto tranquillo. E poi cosa vuole fare? Se non può vedere cani grandi, lì eviti, cazzo eviti. C'era il nostro marciapiede, eviti, io sto scendendo a casa mia, cosa vuoi evitare? Io non l'ho mai manco accorto, ma lui già l'ha visto, sì. E infatti adesso lo sto portando all'interno, qua, nella stradina nostra, non sto uscendo più fuori. Capito? Quando vado in campagna lo porto, però io ci sto poco adesso, le cose devo fare e poi me ne rientro. Adesso l'estate vediamo se riusciamo a combinare bene. Ma stai andando bene, lascia tutto così, non tocca. Eugenio si è scusato che era fuori frequenza, per quello ti sentiva male. No, vabbè, adesso sono con lui, se... Poi se mi sentiva male già può essere, ti ripeto, vuol dire che le colonnine non sopportano la timbrica della modulazione, perché poc'anzi sono entrato con il Lincoln. No, ma stai andando bene, con tutte le radio va bene, non stare lì, magari qualcuno c'ha un problema, ti ascolta meglio o l'altro ti ascolta peggio, ma Gianni ti ha detto ti ascoltava benissimo ed è vicino, più vicino a te, e quindi non ci sono problemi, capito? L'ha saputo così. No, non ho toccato niente, ho detto solo come ho detto l'antenna e basta, niente che ho la possibilità di commutare, l'ho fatto. Certo. Ok, vai doppio. Io. Ma io tra poco anch'io scendo più a trascolare. Perché sta piovendo, c'è stato piccato, perché fare quello che c'è lì. Aspetta, la poco la mia fatta, non posso già due volte. E io ce l'ho qua, te l'ho filmato. Grazie. Vediamo anche io. Grazie. Ma perché sta ancora piovendo? Che è rottura di balle? Settimana la guida dentro, non sta più giù. risalgo, la metto la tutta, 10 minuti. Ci sentiamo dopo, ok? Sì, ne approfitto anch'io, là, ne approfitto anch'io, scendo. Ma non mi trattengo più di tanto. E dopo non lo so se c'è la faccio io meglio di no, oggi ci deve essere qualcosa di guarda qualche cosa. Ci sentiamo alla prossima, non so fatto, però alla prossima. Quando sono libero già la cerco sempre. Sì, va bene. Io sono qua, tanto sono un po' certo, faccio una cosa con tutta. Non c'è problema, ci sentiamo dopo. Ciao. Ciao, ciao, Tino, ciao, Claudio, dai, ci sentiamo. Ciao a tutte e due, dai, ci sentiamo dopo, ti provo a portare il cane. Ehi, va bene, ciao. Allora. Hola, hola, canale 10. Chi è? Ehi, Chi è? Ciao Tino. Allora. Ho mangiato un boccone, mi si era prendere la pittola e quindi adesso c'ho un po' la faccia piena e va meglio. Oggi sei più forte qua, eh? Ci siamo trovati in verticale con Claudio stamane e mi ha passato quello spezzone di capo, un po' di metri di RG58 nuovo e ho tolto quella cru che avevo fatto e adesso ho sistemato tutto e quindi praticamente la discesa è tutta intera, l'ho lasciato integro, ce n'è qualche metro in più ma non l'ho toccato. Devo dire che insomma a detta di strumenti insomma il segnale è migliorato. Sì, vabbè, io ti sto ascoltando con Andrew Ruiz adesso e se 9.15 invece forse stamattina ti volevo fare un altro controllo che facevi da 7 a 8 con l'altro parato, questo forse è un po' più generoso, eh? Sì, vabbè, comunque più o meno dai, siamo lì. Siamo lì e quindi niente, dai, sono contento che sono ritornato al set di prima, almeno i pochi watt della radio riusciamo a spremerli tutti, dai. Va bene, va bene. Vabbè, poi sicuramente lì nell'aria già siamo abbastanza, noi due siamo abbastanza liberi e vicini, quindi non ci sono problemi. No, vabbè, andava bene anche prima, solo che quando hai un pochino più di segnale magari la radio tende sempre a migliorare, dai. Va bene, ultimo, adesso sei 9.15 qua, magari se accendo l'altro, aspetta che provo a commutare l'altro più sotto. Eia. Stavo sbagliando il microfono. Prova! 1, 2, 3, test radio, 1, 2, 3. Non te lo dico, perché sono diventato a ridere, spiega che cambio. No, meglio non dirtelo. Dai, dimmi, non tenermi sulle spine. Ti ho già detto che sordo, quindi, ma non sordo a un orecchio, sordo a due. Vabbè, non c'è problema, figurati, San Piero 3. Attarola. Bisogna dargli un po' di ovo maltina, cos'è? Vabbè, adesso a parte gli scherzi. Però l'importante è che mi ascolti bene. Ah, vabbè. Non avevo dubbi che è stato manomesso lo smitter di quell'apparato, è che è una radio che non la voglio più aprire perché esce bene del radio, insomma. Poi a Fontarino colorato, insomma un pochino, devo cambiarlo lo smitter, però quando avrò quello originale, gli metto il suo, il classico, o cerco un 48 per pezzi e lo smonto, boh, adesso vediamo. Ho capito, guarda io quando l'ho aperto il baracchino tramite lo schema elettrico sono riuscito a trovare i trimmer per la regolazione dello smitter, infatti vabbè c'ho il portatile qua, l'ho usato più o meno per andare col portatile, poi vabbè col segnale di Claudio, quindi bene o male ci sono e sono riuscito a mettermelo a posto lo smitter, ti ricordi tempo fa che ti davo riferimenti completamente sbagliati. Sì, vabbè, poi una volta che lo calibri, la calibrazione, diciamo che dovrebbe essere bene o male più preciso. Magari sicuramente anche il tuo apparecchio avrà qualche regolazione, o proprio lo smitter che è inchiodato di suo. No, muoversi già si muove, solo che non sbaglio del Conex 3, sì, lo ricordo perché ne avevo un antenello e me l'ha piazzato, ma non ho già l'intenzione di metterlo originale già dal principio, solo che poi non ci sono fatto su e quindi l'ho lasciato così. Ho capito. Quindi l'apparecchio in questione è un ALA, così è? Sì, è un 1048S. Capito. Vabbè, con Claudio e Massimiliano prima stavamo parlando dei pregi e i difetti di quel baracchino. Guarda, i difetti è un bel splatter, quello è poco ma sicuro, però dei pregi è che è un apparato che va montato in barra mobile, quindi non è in posizione fissa, spinge bene, è adattabile a tutte le modifiche possibili e immaginabili. Di più ti posso dire è che purtroppo gli splatter Sì, è quello l'inconveniente, è quello il tallone d'Achille, come ti si dice, perché insomma, a parte le esperienze di chi l'ha avuto, insomma, il problema è proprio lì, che praticamente non è abbastanza selettiva e quindi non è abbastanza precisa e quindi tende a disperdersi, dai. Certo, ma vabbè, se te lo utilizzo come lo sto utilizzando io, perfetto, va bene, perché non vicini chiamo il CD, quindi no, scusate, a me non mi danno fastidio. Però c'è anche un problema, che se c'è qualcuno che spinge forte, magari, che ne so, alla veloce, che ha per dire l'amplificatore, allora può anche succedere che mi fa un po' di abbattimento e quindi sento anche altre persone su altri canali, cioè perlomeno. Questo è quanto succedeva quando ero alla veloce. Sì, è quello che mi hanno... È la stessa cosa che mi stava sottolineando Claudio e Massimiliano, questa cosa del battimento, quindi è uno, insomma, è proprio il neo che ha questo apparecchio. E vabbè, diciamo che adesso non hai problemi se non si mette qualcuno vicino a te a modulare. Ho capito, ma voglio dire, da quello che so, insomma, per come ti sto sentendo, già non sei messo male, voglio dire, hai una vasta scelta di radio, quindi non penso che sia un problema tuo. No, vabbè, io questi li utilizzo per gioco, perché quando mi interessa ascoltare qualcosa di serio non lo provo questo, lo provo tutt'altro, questo è per gioco. Immagino. Ci sono i giocattolini e poi si sale di livello, giustamente, visto che c'è il K, quindi il resto è di un altro livello. Vuol dire che il resto è noia. Certo. Ho visto, curiosando l'altro giorno, ho visto insomma che la Kenwood a suo tempo ne faceva di radio come si deve. Sì, diciamo sì, solo che adesso non è più come prima, adesso è più l'era dell'Icon, degli Aesu, quanto è vero per gli altri, non per me, perché io mi sono fermato lì, è una radio che mi piace, è una radio che è adattata a tutto quello che vuoi, però la modulazione mi piace, l'ascolto mi piace, mi piace l'estetica e quant'altro, quindi senza togliere niente agli altri, per carità, però qualità prezzo, perché poi là sono, ho visto che salgono e lievitano moltissimo anche il prezzo, certo non hanno mai questa cosa, però diciamo che ognuno si compra le cose in base alle tasche che ha. Assolutamente vero, sì sì. Poi come tutte le cose, praticamente determinati marchi, nel gergo si dice azzeccano un determinato prodotto e poi giustamente entrano in ballo questioni che a noi sono incomprensibili e quindi diventa tutto più difficile da capire. Comunque a livello terra a terra diciamo che molti marchi azzeccano un determinato prodotto e quindi in base a quello poi spingono tutto il resto. Può essere anche il caso di quelle radio lì che insomma hanno tirato fuori un bel apparecchio e quindi di conseguenza hanno fatto insomma il giro del mondo, insomma, e sono state acquistate da un sacco di gente. Sì, sì. Ma poi prima si andava alla ricerca, prima era la ricerca di queste radio. E poi, vabbè, diciamo che è andato anche a morire un po' la radio perché sono usciti i telefoni e quant'altro, quindi il vero amante l'ha sempre detenuta la cosa e invece gli altri saranno fatti i soldi. Certo, certo, certo. No, ogni tanto mi capita di guardare su YouTube qualche video di qualche radioamatore o di qualche CB insomma che c'è un po' di radio e insomma così a livello di curiosità mi piace guardare un po' di queste cose per vedere insomma anche per sapere cosa ne pensano gli altri, ma giusto a livello così di culturale, niente di più e niente di meno. E ho visto che bene o male insomma è una radio abbastanza conosciuta e famosa, ho visto che è apprezzata. Beh, diciamo che ho sentito dire da altri anche nel largo bando dei radioattori, questa linea qua è andata bene nella 27, cosa che per dire altre radio non vanno. Certo, certo. Vabbè, poi ti ripeto, il mio è giusto diletto così insomma nel vedere e capire determinate cose, poi giustamente lì ci vuole esperienza come in qualsiasi ambito si entri, e c'è sempre da imparare, c'è sempre assolutamente da accumulare informazioni e quindi però insomma per sentito dire e non solo insomma vista la diffusione il prodotto è più che ottimo. Ah sì sì, è caspita, per quello non ho niente a che dire. Allora poi io ho sentito anche radio come questa in mano a determinate persone che magari non avevano una timbrica ideale e non rendeva come doveva rendere, ecco, quindi non è solo avere la radio molte volte, è anche avere la timbrica di modulazione che va a spingere e a volte serve. Certo, assolutamente. Se manca la materia prima se manca la materia prima non si va da nessuna parte, quindi se non c'è la spinta iniziale il resto si ferma, non va da nessuna parte. Ma è caro, va bene. Hai provato poi a metterti una cassa esterna? Sì, ho trovato una cassettina esterna, insomma è cambiato un po' l'ascolto, dai, adesso il suono è un po' più aperto e quindi riescono ad ascoltare meglio. Forse la cassettina sua originale chiusa lì sotto faceva un po' l'effetto scatolato. Adesso vabbè, stava parlando Eugenio un po' canti, io sono entrato con il link, ma no, non riesco a capirti, sono passato con questo giusto per anche per correttezza, è inutile stare in frequenza, poi magari non potrei capire, lo faccio discorso che avevamo lì, Ma sai, sì, con questo ti ascolto, poi si è venuto a sapere che era anche pure frequente lui, quindi però non dipende solo da me. Sì, sì, ho sentito, ero in ascolto, ho sentito, sì, vabbè, effettivamente già come stavamo parlando ieri era di un altro livello la radio, quindi anche io, insomma, come stavamo parlando ieri avevo difficoltà a capirti, quindi poi vabbè, Guido era... Non era perfettamente centrato e quindi insomma è uscito quello che è uscito, dai. Ma vabbè, ti ripeto, mi piace essere, mi ha ascoltato, sono venuto a fare lì a fare con un batto. Eia, vabbè, io mi sa che stacco al limite, provo a accedere dopo, vediamo un po' se rientrano anche gli altri, se no Tino ci si aggiorna, ok? Vabbè, grazie della piccola chiacchierata e magari se c'è qualcuno ci si sente dopo, se no alle prossime, ok? Per adesso grazie mille e buon proseguimento. Ah, figurati, ci mancherebbe. Ciao, ci sentiamo magari più tardi, se coincide anche io, adesso mi allontano, vedo cosa fare per fare un po' di carica, dai. A più tardi se coincide, ciao. Ok, buona carica allora. Altrettanto.